passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Io sono pazzo, a Palermo decido, io sono un gradino sotto a Dio. Io sono pazzo, oh, il popolo mi rispetta e attenzione alla mia vendetta, che se non mi date ragione, io distruggo la coalizione. Nella vita i miei miti sono Caligola e Nerone, e a Palermo anche stavolta io mi voglio candidare, perché sono pazzo. Voi vi aspettate che noi magari iniziamo la trasmissione di oggi, caro Parenzo, seguendo il caso Calearo? Ce ne occuperemo. Avremo occasione durante la Zanzara. Ben ritrovati a tutti per questo inizio di settimana, anche ai telespettatori di TGCom 24. Salutiamo. Naturalmente. Saluta. Agli ascoltatori che ci seguono, sì, moltissimi per radio, sì. 800 24 00 24. Buonasera Federico Confalonieri, buonasera Mario Giordano, buonasera signor Pier Silvio Berlusconi. Ma stai zitto, come al solito. Squinzi, salutiamo il signor Squinzi anche. Aspetta un attimo, fermo. La frase del giorno, no, non me ne frega niente. La frase del giorno è di Leo Luca Orlando. L'abbiamo perso completamente, signor Leo Luca Orlando. Abbiamo perso Leo Luca. Ce lo siamo giocato. Sentite cosa dice: sono candidato a sindaco di Palermo. Sentite come lo dice Orlando. L'abbiamo perso. Su candidato para el bien de los palermitanos, estoy candidato por das vol der palermitana. I am running for the good of the citizens of Palermo. Sogno candidato. Io sono un gradino sotto. Isolatemi in siciliano. Isolatemi la frase in siciliano, vi prego. Signor Orlando, con me Palermo, aggiungiamo altra carne al fuoco, su Orlando. Per me Palermo, quando ero sindaco io, era come New York. Adesso abbiamo perso Orlando. Ce lo siamo giocato completamente. Mi dispiace per il mio amico Giuliani, ma Rudolf Giuliani ho dovuto comunicare che il rating di Palermo era 2 punti superiore del rating della città di New York. Avere rapporti col comune di Palermo era più affidabile e meno rischioso che avere rapporti con la città di New York. Ovviamente è molto meno rischioso che avere rapporti con la Francia di Sarkozy e con l'Italia di Monti. Ma di che sta parlando Orlando? Di cosa dice? Ma dove le ha dette? Era più facile avere rapporti con Palermo che con New York quando ero sindaco. Ma di che era parla? Era più facile fare investimenti, fare cose, non lo so. Leo Luchino nostro! Sono Caligola e Nerone, e a Palermo anche sta Calearo, signor Calearo. Calearo, ho già sentito questo nome in questi giorni, signor Calearo, un nome che mi torna. Questa mattina da Belpietro, telefonata su Canale 5. Poi c'è sempre questa abitudine quando uno dice la cazzata. Sì. Ma il contesto. Ma lo posso dire cazzata, scusa, me la posso dire cazzata? Ma bisognerebbe dire sciocchezzuola. Quando uno dice una sciocchezzuola, hai fatto bene a correggermi. Esatto. Quando uno dice una sciocchezzuola, come ha fatto Calearo, a dire: beh, quella è una trasmissione dove si ride, una trasmissione giocosa, poi dicono giocosa, scherzosa. Hai detto la cazzata, ho detto la sciocchezzuola. Ha suscitato un putiferio l'intervista concessa alla Zanzara da Massimo Calearo, un deputato di Popolo e Territorio. Sentiamo direttamente da Massimo Calearo che cosa ha detto e che cosa intende fare. Buongiorno. Buongiorno a voi. Venerdì, durante una trasmissione, probabilmente in maniera goliardica, le frasi vanno contestualizzate. Ma non c'è niente da contestualizzare, non c'è nulla, però va bene. Uno poi alla fine si deve anche giustificare a un certo punto, no? Forza. E dunque dice: beh, il contesto, la trasmissione. Il mutuo, partiamo dal mutuo, perché poi cerca di spiegare. Ricostruire tutta la vicenda. No, non voglio ricostruire niente, ormai si è già scritto e detto. Acqua passata. Ma si dimette moltissimo. Aspetta. Sì. Il mutuo, innanzitutto, è quello agevolato, 12.000 euro al mese di mutuo, però agevolato c'è quello della Camera, il solito 1,57. Offerto ai parlamentari. Sentiamo. È il mutuo che qualsiasi parlamentare può fare all'interno della Camera dei Deputati. Cioè basso? Ah, certamente sì, anche perché le assicuro che da imprenditore, prima ho fatto il giro di tutte le banche con cui lavoro con la mia impresa e poi ho capito che alla fine il mutuo migliore era quello della Camera dei Deputati. Si sa dire qual è il tasso? No, però è molto basso. È assolutamente molto basso, perché l'ho fatto vedere anche qualche giorno fa al mio direttore finanziario, che mi ha detto magari potessimo averlo in azienda. 1,57 lo diciamo noi, non lo sa Calearo, non lo vuole dire, è il solito 1,57, 1,56, 1,58, forse anche più basso, come ci disse una volta Stracquadanio, no? E bisogna essere bravi a trattare anche con la banca che è la BNL, quella che è dentro Banco di Napoli, se non ricordo. No, una volta era il Banco di Adesso Napoli. Adesso è BNL. Comunque, l'annuncio è questo, poi bisogna vedere se viene realizzato. Vado a Roma questa settimana o la prossima, scrivo attraverso il capogruppo Affini e mi dimetto. Dice, sostiene Calearo. Sostiene, sembra sostiene Pereira, invece sostiene Calearo. State pure tranquilli che la settimana prossima, o già questa, ho già preso contatti col mio capogruppo, vado a Roma, mi chiarisco con lui e poi me ne torno a casa senza tanti problemi. Vabbè, dice chiarisco, però non è detto. Sì, poi in realtà ha detto. Magari poi il capogruppo dirà: no, rimani, il tuo contributo è utile al paese. Veltroni non mi rivolge più la parola, questa è una cosa importantissima. Beh, questa ne farà una ragione, credo, sul Calearo. Veltroni non mi rivolge più la parola. Tanto Veltroni ha definito Calearo, sbagliando, secondo me, una persona orrenda. Sì. Ora, le persone orrende sono altre, diciamo al signor Veltroni: sì. I pedofili, i criminali, quelli che uccidono, ammazzano, i ladri veri e propri, cioè quelli che proprio rubano materialmente o rubano comunque. Cioè, possono essere definite e non sempre persone orrende, no? Calearo ha il torto di aver detto una cosa, una sciocchezza. Di aver parlato con leggerezza del denaro, sì. Diciamo, del denaro, sì, che riceve da deputato. Di essersi un po' vantato di avere una Porsche che ha registrato altrove in Italia, però ma non è un reato. Non si è nemmeno vantato. Comunque, certo, non è una persona orrenda. Cioè, no, lo definiresti una persona orrenda? No. Caveltroni, no. Perché ha dei sensi di colpa. Imprudente, sicuramente, signor Calearo. Sì. Orrendo, no. E comunque. E ha parlato con la pancia piuttosto che con la testa, signor Calearo. Comunque. Veltroni non mi rivolge più la parola, vabbè. No, guardi, Walter Veltroni, da quando io ho appoggiato il governo Berlusconi, non mi ha più rivolto la parola. Quando mi incontra si gira da un'altra parte, quindi non, ma questo non è che mi dia particolarmente fastidio, mi dispiace per lui, perché è una questione solo di educazione, pur. Cioè, maleducato Veltroni alla fine. Sembra di sì. Giugno candidato. Ma chi è? Ma che si intromette questa voce? Giugno candidato. Ma è Orlando, eh? È Leo Luca. È arrivato. Giugno candidato. Ancora. Leo Luchi, ma dov'è? Orlando, dove sei? Giugno candidato. Vabbè, abbiamo capito, sei candidato. Bossi, è tornato, caro Palenzo, è Bossi, bada in malora Monti. Questa è anche sobria come cosa, no? Malora. No, vediamo, sentiamo l'originale, il vero Bossi. Spero che vada in malora. Si illude che basta essere, avere alle spalle il Presidente della Repubblica che lo sostiene per andare avanti all'infinito. No, non va avanti all'infinito. Analisi. Annettiamoci alla Svizzera. Ma questo lo dice ogni tanto, torna la Svizzera. La Svizzera poi vuole il Nord Italia. Fateci invadere dalla Svizzera. Ma la Svizzera vuole il Nord Italia, secondo me. Ma non so, ma o la Lombardia, non so cosa. La Valcamonica, ad esempio. Possiamo parlare parole così, ci racconta come ci facciamo annettere dalla Svizzera. Non so che un altro mi dire. Possiamo fargli dichiarargli guerra e arrenderci sotto. E prima di presentarvi un ospite che in realtà ha a che fare con la vicenda Calearo. Sì, adesso poi ti spiego perché, eh. Sentiamo una delle frasi culto del weekend con il signor Crosetto, che non delude mai. Sì. Il quale dice: io mi rifiuto di andare in Calabria perché ogni volta che mi siedo a un convegno, a un incontro, non so chi mi sta accanto. Vabbè, cioè potrebbe essere un criminale, un ndranghetista, un assassino, non so. Forte che cosa. Però, non mi rifiuto di andare in Calabria. Anche i calabresi credo se ne potrebbero fare una ragione. Sì, comunque. Io ho dei colleghi che mi invitano in Italia, normalmente vado a parlare di economia. Io mi rifiuto di andare in Calabria, non vado. Sa perché? Perché non so con chi mi posso trovare al convegno. E quindi, siccome non voglio dopo 5-10 anni trovarmi con qualcuno in cui mi vergogno, come è successo a qualche mio collega, andando in giro non vado. Sono parole molto allora, dure. Sono parole dure. Molto sono dure, parole dure e forti, perché la Calabria, più di qualunque altra regione, è una regione in cui la criminalità organizzata è entrata a far parte di tutto. Il popolo mi rispetta e attenzione alla mia vendetta. E siamo qui con l'uomo, con l'uomo che dovrebbe subentrare. Subentrare, è lì, caro Parenzo. È lì che aspetta di subentrare a Caleano. È lì che frigge, è lì che frigge. È un assessore alla cultura del comune di Padova, naturalmente del Partito Democratico. Si chiama Andrea Colasio. Buonasera, il filo castrista. Come sta? Bene. Buonasera, è pronto? Buonasera. Pronto? Sì, buonasera a voi. Ha fatto la valigia per andare a Roma, Colasio, al posto di Caleano? Primo non sto friggendo per nulla perché la vicenda è talmente indecorosa che guarda. Cioè indecoroso, è indecoroso Caleano? Ma è indecorosa la vicenda in sé, nel senso che... È indecoroso quello che ha detto Caleano, immagino. Certo che è indecoroso, ma è anche indecoroso che l'abbiamo candidato, mi pare abbastanza evidente che, sai, qui c'è un doppio registro, è una tragedia e una farsa al tempo stesso. Cioè ha sbagliato Veltroni a candidarlo, dice lei? Sì, ma questo è evidente, sai, quando si fanno le candidature, tenete conto di una cosa, che le candidature spesso e volentieri vengono fatte a Roma da segreterie romane, il territorio spesso viene colonizzato, il Veneto ha questa caratteristica, spesso viene colonizzato. Cioè non lo voleva nessuno? In Veneto Caleano non lo voleva nessuno nel PD. Ma sai, al di là di quello, non lo voleva nessuno, ma ripeto, aveva senso candidarlo, forse un presidente di una grande associazione artigiana era più espressivo della società veneta. La domanda è, serviva simbolicamente? Io credo che forse non serviva, non ha portato risultati. Ma scusi, ma scusi un attimo, Colasio, ma erano note le simpatie, diciamo, per il centrodestra di Caleano, a voi che eravate sul territorio, sì o no? Ma al di là di questo, no? Fai politica, cerchi di imbarcare anche a Appunto. Che non appartengono alla tua famiglia, perché sei giusto se vuoi vincere. Sì. Ma non era questo il problema, è che evidentemente il primo consenso non hai fondamentali, non è in grado di definire le categorie politiche della sua. Perché non hai fondamentali? Scusi, perché lei dice? Perché è evidente uno che fa affermazioni del genere. Ho capito, ma questo adesso le fa queste affermazioni. All'epoca, quando fu candidato, non le aveva ancora fatte. Diciamo che adesso fa le dichiarazioni, ma è evidente che se qualcuno avesse fatto un confronto un po' analitico con lui prima di candidarlo, Cosa si scopriva secondo lei all'epoca? Scopriva che non era attrezzato a entrare nell'agone politico, il mondo della politica ha delle regole. E forse per questo Veltroni che l'ha messo, proprio per questo Veltroni l'ha scelto. Veltroni l'ha messo per un altro motivo, l'ha messo perché voleva dire al nord-est siamo con l'impresa, ma il Veneto è fatto di piccole e medie imprese. Questo non è fatto solo, dice, di imprese, di grandi imprese, anche se quella di Caleano in realtà non è una grandissima impresa. Ci sentiamo tra un attimo dopo il traffico, torniamo subito, 800 24 00 24, il filo castrista Colasio, colui che molto probabilmente subentrerà a Caleano se si dimette. Se si dimette. Giallo Caleano. Sogno candidato! Io so pazzo! Sogno candidato! Ma decido, io sono un gradino sotto a Dio, e so pazzo! Intanto Roberto Libertà, uno dei figli di Umberto Bossi, viene condannato per gavettoni alla candeggina. No, mancava solo questo! Un episodio durante la campagna elettorale 2010 ha tirato dei gavettoni alla candeggina a un militante di Rifondazione Comunista che gli ha fatto causa. Una cosa folle, bro. Condannato a 1.400 euro di sanzione, se non sbaglio. Siamo alla Zanzara, 800 24 00 24, con il filo castrista Andrea Colasio, assessore PD al comune di Padova e forse nuovo deputato se Caleano si dimette. Mi dica una cosa, Colasio, lei però, vuol dire, le piacerebbe andare in Parlamento, mi dica la verità. C'è già stato. Sì, lo so che è già stato. Guarda, se si dimette te lo dico, cioè, adesso mi sembra prematuro, cioè, anche perché la mia sensazione è che non abbia alcuna intenzione di dimettersi, cosa che sarebbe buona e giusta. Secondo lei è tutto un trucco questa roba qua? Boh, non lo so, comunque voi avete fatto un ottimo lavoro perché avete disvelato un aspetto che è tragicomico, più tragico che comico. Però va detta una cosa, se posso dirlo. Sì. L'unica cosa che mi lascia perplesso è sul fatto umano suo della morte della moglie. Ecco, lì francamente metterei una parentesi quadra. Però scusi, il punto sulla morte della moglie, devo specificare una cosa. L'ha detto da noi anche, non sottolineandolo troppo. Infatti io mi sono sentito libero di insistere su questa cosa qui, perché lui ha detto anche io non sono andato alla Camera, anche per motivi familiari, cioè non ha sottolineato questa cosa. Posso dire, Cioè, questo è un aspetto che evidentemente lui non sottolinea, però qualche effetto devastante. No, ma non c'è dubbio, sì, non c'è dubbio. Io direi parentesi quadro sulla questione umana. Senta, scusi Colasio, però io voglio capire da lei. Lei ha piacere ad andare alla Camera, no? Giusto? Cioè, le piacerà? Cioè, se Calearo si dovesse dimettere, lei ci andrà. Cosa in cui lei non crede? Non ho nessun piacere, ci vado, chiuse fino anche perché è un periodo brevissimo e facendo io l'assessore a Padova e mi diverto moltissimo a fare l'assessore a Padova, mi può creare qualche turbolenza. Beh, sicuramente può creare qualche problema di compatibilità, non è per legge, però può, sicuramente qualche cosa può creare. Comunque ripeto, io non ho ancora convinzione che l'onorevole Calearo, cioè non credo che Calearo alla fine si dimetta. Ma è doveroso Colasio secondo lei che si dimetta? Secondo me, cioè deve dimettersi, lui dovrebbe essere sanzionato politicamente su presidenza. Lui, diciamo, ha creato un danno all'immagine già devastata della classe politica e questo non è poco, di cosa di poco conto politicamente. E come va sanzionato, scusi? Credo che un richiamo il presidente Fini lo possa fare. Vabbè, ma i richiami sono dei baffettini, cartellino così, giallo, dei buffettini. Vabbè, mica lo puoi cacciare fuori dal Parlamento, ci mancherebbe. No, ma secondo lei dovrebbe dimettersi comunque? Sì. Ma secondo me il punto è qui arrivato, a prescindere dalla valutazione mia, è evidente che non ha vie di fuga. Non ha vie di fuga, dovrebbe farlo, però lei non ci crede perché fino in fondo troverà qualche appiglio, troverà qualche motivo per non farlo. Ma no, perché le sue dichiarazioni spesso mette delle subordinate, no? Sì. Se il PD la smette di attaccarmi, se poi Moffa dirà, che come dicevate voi, no, che è fondamentale per il paese la sua presenza. Senta, l'ha definita filocastrista. Come mai? Sì, no, qui è una barzelletta atomica, perché chiunque mi conosce sa che se c'è un liberal sono io. Lei non è mai stato comunista, Colasio? Mai stato comunista? Beh sì, è stato nel Partito Comunista. Io, da giovane ero iscritto al PC, poi l'ho lasciato per scelta mia. Cioè, diciamo, ma da giovane era un po' castrista, mi dica la verità. Qualche fondamento Ma quando mai? Ero un liberal anche qualche simpatia per Che Guevara, per Fidel Castro? Ma siamo impazziti. Per Mao almeno. Guardate, posso dirvi una cosa simpatica? A Padova è nato il primo partito filomaoista nel 63, nasce Viva il Leninismo, e c'è un caso di omonimia, si chiama Calò, Colasio Calò, e quando nasce, lui scrive un libretto su Cuba, che dice: Cuba non è un'eccezione, come dirne, siamo nel 59, possiamo fare la rivoluzione anche in Italia. Lui era un dirigente del Partito Comunista Locale. Ecco, diciamo che Calearo ha letto qualcosa, ma l'ha letto male. Ha letto male il nome, dice. Scusi un attimo, facciamo un identikit relativo a quello che ha detto anche Calearo. Lei ha una macchina, non ha una Porsche, immagino? Sì. No, una vecchia Audi A3. Quindi un Audi A3 comunque è una macchina... Sì. No, sì. Una berlina, intestata in Italia, immatricolata in Italia, giusto? Assolutamente, sì. Allora, A3 immatricolata in Italia, del valore di quanto costa un A3? Ma costerà 15.000 euro. 15.000 euro. Un mutuo ce l'ha? Sì, come tutte le persone del mondo pago il mutuo e me lo pago con mica tutti hanno mutuo, tra l'altro, cioè, e non beneficio di nessun mutuo camera, tra l'altro. Dunque lei ha un mutuo di quanto, scusi, non per farmi gli affari 10 anni, 12, 7 anni, diciamo un mutuo ventennale in cui paga la rata, perché qui Calearo paga 12.000 euro al mese, per cui no, io pago molto meno. Quanto paga, scusi, quanto paga? Diciamo 6.000 euro al mese, dai, diciamo 6.000 euro al mese. Ma 6.000 al mese è tantissimo. No, 1.000. Ah, 1.000 euro al mese. Ho capito, 6.000, no, è una sorta di Calearo bis, no? No, assolutamente. No, infatti no. Però non la sento entusiasta l'idea di andare a Roma. Comunque, insomma, no, è un bel lavoro quello del parlamentare, no? Sì, però è un bel lavoro se lo fai di lunga durata, nella serie, inizi una legislatura, segui dei problemi. Comunque sono pronto, e eventualmente sono pronto. In che senso? È pronto ad andare eventualmente a Roma. Capirai che sforzo, pigli il treno, in 3 ore sei a Roma, ma non è questo il problema. No, è pronto ad andare a Roma. Vabbè, scusi un attimo, però per concludere, lei si sente, dopo quello che ha detto Calearo, anche più degno di lui di rappresentare le istituzioni? Ma non è questo un problema. Il problema è che è stato sbagliato candidare lui, chiuse. È d'accordo, però lei si sente più degno di rappresentare il paese rispetto a Calearo? Ma un riscatto come un... Non rispondo, è irrilevante, cioè il problema è politico. No. L'uomo era inadeguato, lo era allora, lo è adesso. Io credo che politicamente sia opportuno per lui che si tolga di mezzo, ma ripeto, è una scelta che spetta. Io ho capito, e lei non ci crede. Ma non ci credo. Ha detto prima non ci credo perché prima vedo, poi No, non ci crede che si dimetterà. Non si dimette. giornale sì. Radio, giornale radio 800 24 00 24, dopo. Siamo qui 800 24 00 24, la Zanzara, certo, cari ascoltatori. Certo che ci siamo. Siamo qui presenti. E dove andiamo? Beh, le grandi sfide, i grandi scontri televisivi. Abbiamo Crosetto, sempre pronto all'attacco, signor Crosetto, deputato del PDL piemontese, contro uno spettatore, cioè contro uno spettatore durante che trasmissione? L'ultima parola. Paragone? Via. Durante Paragone? Il che significa? Il che dramma. Parliamo noi. No, il questo sì, ma adesso. Belluco, quando parliamo. Intanto se mette il microfono così non si sente nulla. Volevo sapere, volete parlare sempre voi? No, dobbiamo parlare anche noi. Pare che qui non la state parlando e vi faccio parlare. Però adesso sempre voi. Cavoli. Se vi dà scusa, se se vuoi venite a sedere qua, guarda che io non ho problemi a sedermi. Ma per carità, non so, parlo perché mi dà la parola. Ancora, ancora Crosetto contro il pubblico, l'ultima parola. Ce l'ha già detto due settimane fa. Non è che mi... ti fa la storia della media aritmetica, lì, la conosciamo la media aritmetica. E dopo gliela ridici. Siccome, sai, dignità ce l'hanno loro, ce l'ho anch'io. Io non è che vengo qua a farmi insultare da lui che non so chi sia. Io so chi sono io. Siccome non ho bisogno di stare qua, saluto Paragone, ti dico quando si staccano cosa ti direi se non ci fossero le telecamere. E poi me ne vado via a casa perché sai come non è che mi pagano per stare qua, non sono qua a prendere soldi né per avere visibilità. Quindi il minimo che pretendo, anche da te che non so chi sia, come tu non sai chi sono io, è un po' di rispetto. Io quando parlo lui o te ti ascolto, va bene? Non è che tutti valgono allo stesso modo, uno c'ha anche una storia dietro e tu non puoi infargarla insultandomi come se fossi l'ultimo dei cretini. Ho detto solo e quindi che basta, stai zitto, la conosciamo. Sì, allora. Tu sei grazie che allora, mi segui. Allora colpo di reni del Crosetto, colpo di reni di Crosetto. Siamo qui, ma Orlando, non me lo fate più ascoltare, Orlando, siete impazziti? Il sogno candidato! Hai capito o no che è candidato lei a sindaco di Palermo? Lo fa diventare, ho già si capito. È candidato. Sogno candidato! È candidato a sindaco di Palermo. E quindi non avevo capito questo. O no? Sentiamolo, se lo dice lui? Non lo so. Sogno candidato! Hai capito, sì. Emiliano cerca di spiegare in questo modo alle invasioni barbariche che lui, che non è il solo a ricevere regali. No. No, c'è anche Monti che riceve le cravatte da Berlusconi. Ma che c'entra? C'entra Berlusconi, cioè, è un altro politico che regala una cravatta. Ma non è un imprenditore che fa affari, che fa cravatte, tra l'altro, che fa appalti con i comuni. Comunque, sentiamo. Dico che persino al Presidente del Consiglio è capitato di avere dei regali dal più grande imprenditore italiano, da Berlusconi. Parlo della signora Monti che su un giornale in questa settimana ha detto che quindi non legge il Corriere della Sera ma legge chi? Beh sì, perché aveva a che fare con i regali. Io mi sono occupato in questa settimana quasi esclusivamente di regali a uomini politici. Lo spieghiamo politici. Perché sennò sembra che chissà che dicevo, regali. No. E però incombono i titoli del TG3. Bianca Berlinguer parla a Mediaset. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Disoccupazione record a febbraio, senza lavoro quasi il 10%, massimo da 12 anni, e per giovani donne sempre peggio. Polemiche sugli esodati. Napolitano aggiorni il disegno di legge sul lavoro, la riforma aiuta la crescita. Monti aumenterà flessibilità e sicurezza, stasera il rientro del Premier in Italia. Bersani sui licenziamenti, intesa possibile in tempi rapidi. Alfano, soluzione condivisa, ma no a diktat della CGIL. Di Pietro, ospite al TG3. La Camusso, se c'è il reintegro per i licenziamenti economici, pronte a firmare l'intesa. Squinzi di Confindustria, no a guerre di religione sull'articolo 18. Sarà pesante soprattutto sulle seconde case la nuova imposta comunale sugli immobili, prime stime, mentre al Senato si cerca una soluzione su come pagare la prima rata. Confessa il calciatore Massiello, arrestato per aver falsato il derby Bari-Lecce, fece l'autogol per soldi, indagini su 5 partite e altri arresti, la Serie A trema. Secondo gli inquirenti che indagano sulla scomparsa di Emanuele Orlandi, una personalità in Vaticano è a conoscenza della sorte della ragazza, non sarà aperta la tomba di De Petis. Beh, Intanto devo dirti la verità, Parenzo, la procura di Roma dice che forse in Vaticano qualcuno sa della vicenda Orlandi. Questo è clamoroso. Ma quale clamoroso? In Vaticano, anzi no, in Vaticano sanno. Grande scoperta. Ma certo, il Vaticano ha sempre rifiutato le rogatorie internazionali quando la procura di Roma chiedeva. Ma di che stiamo al parlando? Vaticano. Ma chiudere queste cose, chiudere. Basta, ma scusa, basta. Il Ministero di Giustizia basta. Più volte ha fatto rogatorie internazionali. Ma stai zitto, sentiamo Bossi, no, Maroni, referendum per annettere la Lombardia alla Svizzera. La verità sul caso Orlandi, chiediamo solo verità. Questa cosa che ha citato Umberto, questa iniziativa è nata spontaneamente, questo referendum che per chiedere l'annessione della Lombardia, di un pezzo di Lombardia alla Svizzera, qualcuno la intende come una cosa così un po' folcloristica, ma in realtà non è così, esprime una volontà di cambiare questo sistema. No, non è folcloristica, è semplicemente una stronzata. No, scusa, è una sciocchezzuola. Una sciocchezzuola grossolana. Ma non diciamo nulla del caso del signor Mele, signor Frisullo, come ha documentato il grande Antonello Caporale su Repubblica, dei due esodati della politica che dopo il carcere si prendono pure il vitalizio? La Pivetti, stai zitto, la Pivetti, stai zitto. La Pivetti, quando si tratta di andare alle cose, la Pivetti la faccia come il... Come? C. Si può dire o no? No. Ricorso per la vicenda degli ex presidenti, dei privilegi degli ex presidenti. C'è ricorso perché vuole proteggere le persone hanno che lavorano una bella con lei. Faccia tosta, no, ma in Italia, diciamo, in Italia non si può cambiare nulla, perché c'è sempre qualcuno che dice se si cambia qualcosa c'è gente che perde i posti di lavoro. Ma chi se ne importa? Ma di che stiamo parlando? Le assumesse lei le persone? Perché devono essere pagate dallo cioè, Stato? Perché dobbiamo pagare noi gli assistenti? Le persone della Onlus, della Pivetti. Ma ti rendi conto o no? Però magari fanno un grande servizio al paese la Onlus della Pivetti. Ma quale servizio al paese? Ma non è questo il punto. Sentiamo. Avete fatto una cosa ingiusta. Comunque io non ho mai chiesto niente per me. Continuo a non chiederlo. Ma di questa gente vi dovete fare carico. Vabbè, magari verranno. Ma magari un corno, guardi, faremo un ricorso, quindi questo glielo posso. A lei fa ricorso contro. No, io no, non lo faccio io, lo faranno loro. Sempre ricorsi. In Italia si fa ricorso per qualsiasi cosa, si decide di tagliare i privilegi, chiamiamoli così, le vergogne degli ex presidenti del e si fa ricorso. Perché alla fine ma ricorso dove? Ma bisogna poi dire, queste persone perché che cosa lavorano nella Onlus sono pagate dalla politica. Posso dire che non me ne frega nulla. No, neanche a me. Zero. Neanche a me. Zero. Frega nulla. Ma non per loro, perché se si fa, se si prende in considerazione anche queste cose, non si cambia nulla. Cioè si fa ricorso. Ma dove? Era di che arrabbiata, stiamo parlando? Non ce la faccio più. La sono Pivetti. Candidato. Lo so che sei candidato. Pivetti, mossa da Russia zarista. Poi uno sente queste cose e prendi. No, signora Pivetti. Ha sorpreso molto un equivoco culturale, un po' da Russia zarista. Cioè, come tolgono a me non hanno tolto niente, hanno tolto a questi poveri cristi il loro lavoro. Cioè, sai, il contadino che è proprietà del feudatario. Allora, mo colpisco il feudatario che gli levo il contadino. Non funziona così. Lo so, però. Sono lavoratori, sono persone che stanno lavorando. Ma che vuol dire? Cosa vuol dire? Hai sbagliato a considerare questa cosa eterna. Cioè, dunque, se lei voleva fare una Onlus, la pagasse con i soldini suoi. Fuori dalla o camera. O prendendo dei finanziamenti privati, ad esempio. No, i privati possono finanziare la Onlus. Non è che ci possiamo accollare le persone che lavorano per la Onlus della signora Pivetti. Su. 800 24 00 24. Mattia da Lodi. Mattia. Cruciani. Sì. Cruciani. Sì. Buonasera. Sì, e questo chiama che voce sì, ha? No, chiama in convenzione, sono 7:25. È il primo. Sì. Volevo dire due cose a Parenzo. No, ma è chiaro, questo è un chiama in convenzione. Sì, sicuro. Pronto. Non la sento, Mattia. Mattia, prego, dica. Allora, volevo dire a Parenzo. In giro, sì. Forse. Di smetterla di imitarmi. Vabbè, e l'altra cosa è la prima telefonata in convenzione sì, adesso arriviamo con la solita dose di beta ax. Ma cosa fai? Vabbè, impazzito completamente. Luigi da Roma. Ormai siamo in balia del Ministero della Salute qui, degli ospedali. Luigi da Roma, prima o poi questa convenzione finirà. No, però. Ma quanto dura questa convenzione? Non so, è stato firmato questo protocollo d'intesa tra la Zanzara e il Ministero della Salute. Luigi da Roma, buonasera. Eccomi, eccomi, buonasera a voi, buonasera, buonasera. Vada, anche qui mi sa che... Mi sentite? Sì, sì, sì, benissimo, no. Prego. Dunque, allora, come dicevo lì alla vostra segreteria... Certo, io... la segreteria della Zanzara, la segreteria politica della Zanzara, sì. La cancelleria, no, direi. Sì. Comunque, nel momento di crisi, qui bisogna arrampicarsi sugli specchi, anche i saponati, come dire. È la seconda. Allora, sì. Io vorrei proporre a voi due, perché voi siete i due magnifici, sì. Io mi occupo un po' di musica, di teatro, eccetera. Sì. Allora, se mi date i diritti di autore, io scrivo uno script musicale, sì. Il professore Timothy Martin mi scrive la musica. Chi è, professore? Ma chi c'entra questo? Chi c'entra? Allora, un attimo, lei per piacere, perché allora non agitiamolo, non agitiamolo, calma, calma. Allora. Se mi va a parlare, sì, per carità. I magnifici due siete, sì. siete pieni di talento, allora, sì. Avete tutte le capacità per, quindi un musical, Magnifici due, sì, eh. Mandiamo intanto una macchina a prenderla, intanto, così poi ne parliamo. Già mi avete una volta mandato l'ambulanza, chissà come mai, no, Luigi, perché, ma stia calmo, non è successo evidentemente niente. Repetita Juve interrompe lo scudiero suo, sono già a bordo, stiamo arrivando, sente, stiamo arrivando. Vabbè, allora posso finire? Sì, prego, il tempo di arrivare, intanto finisca. Mettiamo i capitoli più importanti, incluso lo spec del mio paese, della Carnia di Sauris, che è di origine controllata e è stato vilipeso da azioni che non ha niente a che fare con il marchio di fabbrica dello spec di Sauris. Ma è la seconda telefonata, sì, è incredibile, è la seconda convenzione, però 19:30-20 per forza, ecco. E si sono aperti i microfoni prima, in realtà, alle telefonate in convenzione. Anticipato. Luigi, dove si trova lei? Sì. Io mi trovo a casa mia a Roma, al Divino Amore, cioè, sono benedetto da qui. Non c'è dubbio. Adesso però magari passerà qualche giorno in una corsia di un'altra struttura, diciamo. Poi dopo neurologica. Poi la riportano tranquillamente a casa problemi, però intanto fa qualche giorno lì, diciamo. Va bene. Così almeno si rimette in sesto. Gli artisti sono tutti bisognosi di clinica neurologica. Non c'è dubbio, guardi. Io vi faccio una proposta seria. Serissima. Sì, sì, ma infatti sta arrivando la macchina proprio per accogliere la sua proposta. C'è la borsa intanto, resti lì che arrivano, non si preoccupi. Candidato. E vabbè, abbiamo capito che signor Orlando è candidato sindaco di Palermo, l'ho detto in... Ci tiene però, mi pare, di capire Orlando. In tante lingue, come aveva detto in tante lingue, però che non si sarebbe candidato. In aramaico, eccetera. E vogliamo far ascoltare che cosa? Vogliamo far ascoltare la splendida telefonata, scontro del sottoscritto con Aldo Busi. Con lo scrittore Aldo Busi. Alla fine della puntata di venerdì. Con lo scrittore Aldo Busi, perché tu sei Cruciani, lui è lo scrittore Aldo Busi. Che era io, sono io. E tu sei tu. No. Com'era? Io sono io. E voi? E voi? No, non mi ricordo. Non siete? Siete nulla. Non siete un? No, io non lo dico. Non siete un Busi. Io, guarda, esigo l'educazione, il rispetto e il senso di lesa maestà, perché tu non sei nessuno, io sono Aldo Busi, tu mi hai mancato di rispetto. Mi hai mancato di rispetto, hai sempre stato sulla voce, non sono mai riuscito a esprimere un pensiero fino in fondo. Quindi se tu ti servi dei tuoi ospiti per intervistare te stesso, con me hai sbagliato. Ancora. Tu non sei nessuno e sei anche un maleducato. Io invece sono Aldo Busi, sono uno scrittore, non dipendo da nessuno, non faccio parte di clan, non lecco il culo a nessuno, né a destra né a sinistra. E non voglio assolutamente che qualcuno si permetta di mancarmi di rispetto come hai fatto tu. Ma non avete messo io che parlo con Busi? No, avete cancellato quello che ho detto. Censurato Cruciani alla Zanzara. Mi hanno cancellato quello che ho detto, cioè lo scontro l'hanno cancellato, hanno messo solo Busi. Hanno messo solo Fai, hanno fatto bene, hanno fatto. Vabbè, sentiamo. Hanno fatto bene. Intanto tu non paghi, quindi già mi stai portando via tempo, attenzione, non hai mai letto un cazzo di me, non sai niente di me, ma perché io sento semplicemente da come ti rivolgi. Beh, insomma, i collaboratori della Zanzara hanno cancellato la mia voce perché certo. Volevano far ascoltare solo Busi. Solo la versione di Busi. Solo la versione di Busi, non volevano mettere lo scontro. Cose incomprensibili, cose incomprensibili. E vabbè. È così, gli piace così. Ma Orlando? Si candida Orlando? Si candida? Si candida? Si candida? Sogno no? Candidato! Ah, sogno ecco. Candidato! Cosa pazzesca! Eccolo! Chi è? Aspetta! Cioè, facciamogli sentire. Quando c'è un telefono che squilla. Qualcuno trema? 3, 6, 6, 6, 3, 8, 0, 8. Niente, non risponde l'onorevole. Andrea D'Asti, buonasera. Ora lo becchiamo però, eh. Buonasera Parenzo, buonasera Cruciani. Vada. Piccole considerazioni. Sì. La prima su quanto detto dai leghisti, a prescindere dal colore del politico. Sarei curioso di vedere come il politico medio italiano si interfaccia con la realtà elvetica, sia essa economica che in termini di restrizioni a incarichi, parentele incastrate in sede più o meno importanti e remunerate. Mi piacerebbe vedere, ma so già quale sarebbe il fine ultimo della questione, quello di fare le solite figure da cioccolatai, siano essi verdi, bianchi, rossi, azzurri, questo cambia poco. E poi una considerazione un pelo più acida, che è figlia di esperienza personale, che però penso possa essere ribaltata su diverse persone in Italia. Il problema del lavoro dai 15 ai 24 anni è sicuramente incisivi in Italia. Io ne ho 30 e lavoro da quando ne ho 19, senza aver avuto spintarello o cose del genere. Va bene Andrea, forse perché andiamo, mi sono andiamo saputo alla adattare andiamo alla sostanza. A cose che la maggior parte dei giovani oggi come oggi non è disposto a fare in virtù di un titolo di studio, di una credenziale. Cioè, lei dice il lavoro c'è, il lavoro c'è, però no, allora che il lavoro ci sia come cioè, certi lavori ci sono, ma gli italiani non lo vogliono, i giovani italiani non li vogliono fare. Ecco, diciamo che di questo 30% io sono convinto che uno su tre, per essere di manica larga, potrebbe trovare una collocazione sul mercato del lavoro, probabilmente non dove aspira o dove bene. Il suo titolo viene da atto, però in termini di possibilità di lavoro qualcosa nel mercato del lavoro c'è. Bene, grazie, grazie Aldo. Aldo, vabbè, adesso non faccio il comizio, però Aldo da Sondrio, buonasera. Buonasera Cruciani. Vada. Allora, sì, senta, io sono un vostro ascoltatore da tanti anni. Sì. Siete due bravi giornalisti. Vi divertite a fare i cialtroni ogni tanto, ma è divertente. Come, scusi? Vi divertite a fare i cialtroni ogni tanto. Ma noi non è che ci divertiamo a fare cialtroni, siamo cialtroni, è diversa la cosa. È divertente la cosa. Sì. Però venerdì io ho sentito un ascoltatore che ha chiamato ed è venuto fuori il discorso di quanto guadagna lei Cruciani. E lei si è un po' piccato, risentito di questa cosa. Ma non mi sono risentito per niente, non me lo ricordo nemmeno. Dice, mi scusi Cruciani, lei diceva, l'ascoltatore diceva 200.000 euro l'anno e lei negava, no ma non è vero, io non l'ho mai detto. Io non capisco perché non è, il punto non è quanto lei ma non guadagna. Me lo ricordo, lei... non mi ricordo questa cosa qui, non io, credo no, di averlo detto, non credo di averlo detto, anche se l'avessi detto, diciamo che l'ho detto, allora? No, le volevo dire, guardi che non vedo di cosa ci sia da vergognare. Ma io non mi vergogno per niente, non me lo ricordo, non mi ricordo con la cifra con esattezza, ma non è importante, insomma, Aldo, non mi sembra fondamentale, no? No, io le dico soltanto cioè, non li prendo da lei, non li prendo dallo Stato eventualmente, se fossero quelli, per cui di che parliamo? Non è il punto di quanto lei guadagna, lei è pure un bravo giornalista, può guadagnare benissimo. Ma non ho capito di che stiamo parlando, che io non... Il punto era perché lei negasse. Ma perché non mi ricordavo di averlo detto, può darsi che abbia detto, può darsi di no, in quel momento sono ancora convinto di non averlo detto, ma va bene lo stesso, penso di aver detto una cifra inferiore, non lo so, non mi ricordo, non è importante. Comunque, ho detto così, comunque niente. Vabbè, ho detto così, avrò detto 200.000, vabbè. È così, no, vabbè, è contento? No, sì, sono contento, ma le volevo solo far osservare che io avevo negato questa cosa, ma non è che ho negato dicendo no, ma lei è un pazzo. Sembrava che lei si vergognasse di ma questa quando cosa, mai, assolutamente. So. Meglio così, cioè non c'è nulla di cui vergognarsi. Ma infatti no, assolutamente. E poi volevo dire una cosa su Calearo, sì. Che non è una persona orrenda, però secondo me come politico è veramente indecente, cioè è proprio una roba, non capisco. Ecco, dire per esempio come politico è indecente è un altro discorso, va benissimo, è una considerazione sì, che sì, si può fare tranquillamente, però, no. Però persona orrenda non c'entra assolutamente nulla. Sì, sì. Andrea da Pesaro, Andrea da Pesaro, buonasera. Buonasera, salve, sì. Che piacere, guardi, sarà 20 anni che desideravo. 20 anni? 20 anni no, ma da quando c'è. Vabbè, è un modo di dire, diciamo, no? Vada. Allora, scusi, ma se le dico Pronto, adesso va bene? Sì, sì, va benissimo. Benissimo, guardi, purtroppo io ci sono riuscito, l'unico giorno che ero sul trattore qua in mezzo al campo a fare il contadino, quale sono tornato dopo 25 anni che pensavo di fare l'imprenditore. Senta, io volevo dire semplicemente che nonostante a volte siate un po' fuori dalla riga, mi siete molto simpatici e faccio un sacco di fatica a mettere forbici la sera, cioè mi sento a voi, anche se a volte trattate male i clienti che vi chiamano come me. Allora, detto questo, io sono imbufalito oggi perché l'avevo sentito dire, ma quando stasera l'ha detto a Focus Economia Barisoni, che tutta la famiglia La Russa, che voi conoscete bene, prende centinaia di migliaia di euro di consulenze, Geronimo, quell'altro, come si chiama, ho finito la batteria, cavolo, dalla Premafin del gruppo di Ingresti, anzi da Fondiaria SAI, che sta per fallire, ma nonostante questo La Russa, il figlio, lo zio, il nipote, ha preso centinaia di migliaia di euro di consulenze. Io sono indignato, io lo so che lei Cruciani non si indigna mai, però invece noi popolo ci indigniamo, e come, quindi l'importante è che sia tutto trasparente, che sia a conoscenza degli azionisti di Prema fine eccetera. Gli azionisti non lo sanno, lo sanno gli azionisti, ma, Ingresti, la figlia, ma lo sa la figlia, lo sanno, la sorella, se guardano i bilanci, se i soci non sono d'accordo possono fare un'azione contro il presidente, contro la famiglia Ingresti. Lei ci crede che qualcuno lo fa? Ma volevo dire che noi posso, non è una cosa bella, questo indubbiamente, però se a me non piace. Ma cos'è che non è bello? A me non piace, non è bello che un politico abbia partecipazioni anche in una società privata. No, attenzione, qui c'è, allora, Fonsai ha speso 670.000 euro nel 2011 per le consulenze legali pagate a Vincenzo e Geronimo La Russa. Consulenze legali. Vincenzo e Geronimo La Russa. Fratello non sono... e figlio dell'ex ministro di difesa. E questo no, di che parliamo? Nulla, cioè, di grave. Consulenze legali, poi non. Cioè, non, 350.000 euro a Geronimo La Russa, consigliere di Prema, fine 320.000 per Vincenzo La Russa, componente del CDA di Fonsai. E qui effettivamente non c'è nulla. Di che stiamo parlando? Cioè, se agli azionisti, se ai i proprietari della società gli piace così, hanno preso due professionisti, sì, ma che poi si chiamano La Russa. Ma ognuno può scegliere, i consulenti i consulenti che vuole. Qui è il privato che paga, Poi, se sono bravi, le peraltro, volete. Nessuno dei due risulta in politica in maniera, diciamo, attiva. Vincenzo nel passato, Geronimo il figlio la sua attività, eccetera. Per cui di cosa stiamo parlando? Non ho capito. Poi uno è affare degli azionisti di Fonsai, o no? Senta. Pronto? Pronto, sì. Ma stiamo perdendo. Sì. Qual è il punto? Il punto è che ci siamo scocciati di sentire questi discorsi, che i parenti dei politici no, però mi scusi, sì, ma io non voglio difendere nessuno, non me ne frega niente, non li conosco, sto dicendo se la prendano, non sono soldi pubblici, sono soldi della Fonsai, sono soldi di questa società, che se gli azionisti hanno qualcosa da ridire, se la prendono con il signor Ligresti. Dottor Cruciani, non saranno neanche soldi pubblici, però c'è una questione anche di buon gusto, ma allora buon gusto, diciamo, se io voglio buttare abita in il segreto del PDL, allora. Ma quello è un altro discorso. Ma non è un altro discorso, è un comportamento generale che in altri paesi del mondo non verrebbe accettato. Ma no. E invece noi lo accettiamo. Io mi indigno e poi ma c'è una storica amicizia tra la famiglia Ligresti e la famiglia La Russa, perché vengono dallo stesso paese della Sicilia. C'è un'amicizia storica tra il signor Ligresti e la famiglia La Russa. Se il signor Ligresti, che ha una società privata, decide di dare dei soldi al figlio del signor come La Russa, come consulenza, e se gli piace così e lo reputa un bravo professionista, ma saranno affattacci suoi. Basta che non ci siano favori tra il politico La Russa e la società. Basta che non ci sia questo. Allora, quello sarebbe gravissimo. Lei è giovane, ma non è nato ieri, insomma, no? Dottor Parenzo, ho capito, ma se c'è una notizia di reato, se lei conosce qualche. Un attimo solo, il grande scontro andato in onda bene i giorni scorsi qui alla Zanzara tra due personaggi, sentiamo. La Feltrinelli ha pubblicato un libro. C'è ancora nelle librerie Feltrinelli il libro di San Cimino Iuno. Le lancio una proposta. C'è ancora. Ci sono editori che dovrebbero chiedere scusa per avere pubblicato offerto una tribuna a uno che è un truffatore. Ma io avrei scritto subito. L'editore ha consentito a quella persona di alimentare una versione falsa di un personaggio di malaffare che campa e si arricchisce con i soldi accumulati dal padre mafioso. Meglio un giorno da Ciancimino che 100 da Gasparri, questo dice. Meglio un'ora. A fatto di un criminale una icona antidata, il quale grazie anche alle compiacenze ha potuto visitare uffici dai quali ha attinto, l'ho detto, Ciancimino Junior, notizie riservate, ha potuto girare scortato e fare truffe. No, Gasparri, a parte che con Cicchitto veramente fanno un duo comico quasi, per cui credo che ormai insomma non riesce veramente, non c'è giornata che non ammiro quello che dice Gasparri, per cui anche credo di essere un'ossessione di Gasparri. Se la definizione criminale per il dottor Gasparri, per il senatore Gasparri, è quella di essere pregiudicato, credo insomma che lui ne siede anche al Senato con criminali. Per cui bisogna vedere sempre, anche cercare di interpretare quello che dice Gasparri, non è facile. Maurizio Gasparri, buonasera. Eccolo. Buonasera, posso fare però una premessa, scusi, sull'altro argomento che ho avuto modo di sentire. Quale? La russa? Quale? Io sono molto amico della russa. Dico a quel signore che parla a nome del popolo, intanto complimenti, perché uno che parla a nome del popolo è un po' presuntuoso. Secondo, il senatore La Russa, il padre di Ignazio La Russa, era il vicepresidente della SAI, quindi come diceva Parenzo, era un amico, collaborava molti anni fa. E Gerardo La Russa che fa l'avvocato e Vincenzo La Russa che fanno gli avvocati hanno incarichi professionali e incarichi abbiamo già detto noi, Come lei ha detto con grande onestà e precisione. Grazie, quindi grazie per la correttezza del suo esporre la situazione. Un po' di biasimo a quel signore presuntuoso che dice fesserie, perché se uno ha un incarico professionale e gli avvocati che avranno avuto incarico da quella società saranno centinaia o che fanno parte dei vari consigli. Se quel signore sa cose che non vanno, no, ma infatti, e poi ha problemi personali, si astenga dal trarre conclusioni che sono inaccettabili sulla correttezza indiscutibile di tutta la vicenda di Gerolamo La Russa. No, ma poi ripeto, non hanno incarichi politici, fanno gli avvocati e se qualcuno ritiene capace di svolgere degli incarichi. Guardi, appunto, qui non è questo il luogo per indagare i rapporti tra la famiglia La Russa e la famiglia Ligresti. Ci sono rapporti storici, a me non me ne frega nulla. In quel caso citato sono rapporti professionali. Nel caso citato sono due persone che hanno ricevuto incarichi professionali. Se gli azionisti di Fonsai avranno qualcosa da dire, lo faranno nelle sedi istituzionali. Ma parlavo di quel signore che parla a nome del popolo. A me quando vedo uno che parla o che parla a nome del popolo mi preoccupo. Senta Gasparri, prima di presunzione. Sembra è peggio di Ciancimino questo signore. Ecco, prima di partire all'attacco sul signor Ciancimino, rimaniamo un attimo sulla vicenda del signor Caleano. Che dice il signor Cruciani lei, no? Sì, rimaniamo sulla vicenda perché del signor Caleano, stato cattivo, proprio creata qui a creata, insomma, che si è nata, diciamo, anche in maniera inaspettata, devo dire, nata qui alla Zanzara. Lei è stato piuttosto cattivello anche con Caleano, eppure Caleano è passato a un certo punto armi e bagagli nel centrodestra. E l'avete accolto? Come mai lei lo ha definito addirittura una vicenda, non mi ricordo come, qua Ole, eccolo qua, una vicenda ignobile e disgustosa, parole di Caleano, ignobili e disgustose. Ma come, una vergogna per l'imprenditoria e per l'Italia. Ma l'avete accolto a braccia aperte quando ha sostenuto il governo Berlusconi, Gasparri, adesso la spara contro. No, ma io nella mia dichiarazione, se la leggete, c'è anche scritto che purtroppo poi ci siamo avvalsi in qualche caso del voto a favore, l'ho detto nella dichiarazione, perché immagino questa è l'obiezione più facile. La mia considerazione era di altra natura. Spesso si critica la politica perché la si considera inadatta, inadeguata, fatta da... Poi dice, mettiamo la società civile. Caleano è stato coinvolto dal PD, ma non voglio accusare nessuno. Era un importante dirigente della Confindustria, il capo della Federmeccanica, che nella Confindustria è come la Juventus nel campionato di calcio, insomma, un pezzo importante, e poi ha fatto queste dichiarazioni. Allora, molte siamo meglio, molti di noi politici, serio. Vabbè, io non ho la macchina con la targa slovacca, non faccio queste ostentazioni. Beato lui che paga il mutuo, vuol dire che c'ha da campare con altri proventi. Quindi ho trovato disgustoso, nella misura poi in cui si era detto Caleano viene dalla società civile, mettiamo la gente nuova, questi bravi, belli. Mi pare che l'esito sia stato abbastanza scontato. E anche il trasformismo parlamentare lo metto nel curriculum negativo di Caleano. Ho capito, però voi quando ha votato per voi, lei non ha utilizzato parole come trasformismo parlamentare o altro, Gasparri? Scusi, io sto giudicando le mie affermazioni, non riferite a questa intervista che voi gli avete con vostra abilità, come dire, strappato. Stavo per dire storto, ma non era. No, è storto, mi sembra esagerato, ma anche strappato non è il termine corretto. Comunque, abbiamo capito. E lei, ho letto anche la sua intervista che dice: noi chiamiamo le persone nel momento in cui vogliono sfogarsi, così riuscite. Alcune volte lei vuole sfogarsi su Ciancimino, ad esempio, oggi, no? Ha voglia di sfogarsi. No, ma voglio confermare quello che penso. Mi ringrazio di avermi dato la possibilità di aggiungere un mio pensiero, perché veda, a me già mi mette in imbarazzo mettermi in un dibattito tra me, che sono una persona seria e per bene, e amico di quelli quelli che hanno combattuto la mafia. Io ho conosciuto Paolo Borsellino, ritengo persone come il generale Mori ed altri degli eroi della lotta alla mafia. Polemizzare con questo personaggio, i cui soldi sono il frutto dell'attività mafiosa del padre. Vabbè, ho capito, ma non è che un figlio è colpevole per l'attività del padre. Momento, attenzione, mi scusi, tutti quei fondi sono stati in parte sequestrati, in parte sono rimasti nella sua disponibilità. Quindi lui, le attività che ha sviluppato non sono frutto di una sua capacità imprenditoriale. Sono frutto di attività criminale. Potrebbe essere bravo, intelligente e capace. Mica che nessuno è figlio di un mafioso e condannato per nascita a prescindere. Lui, le attività economiche che ha svolto all'estero, in Italia, i soldi che c'è in Francia, sono i soldi che nascono dall'accumulo del padre. In più, io ribadisco quello che ho detto. Insomma, come risponde a Ciancimino che dice meglio un minuto da Ciancimino che 100 da Gasparri? Un giorno. Ma guardi, questo si rifà a uno slogan che inventarono i nostri ragazzi, i ragazzi della destra, quando fu ucciso Paolo Borsellino nel 1992 con la strage tremenda di Via D'Amelio. I ragazzi della destra coniarono questo slogan che fu stampato su delle magliette, su dei manifesti: meglio un giorno da Borsellino che 100 anni da Ciancimino. Così è nato quello slogan. Lui l'ha scimmiottato in questo modo. Io ribadisco che gli eroi sono i Borsellino e non i Ciancimino di ieri e di oggi, ed è grave. Poi ve lo siete un po' dimenticato, però i magistrati poi ve li siete un po' dimenticati a un certo punto. Comunque non importa. No, io non mi sta allargando il discorso. Guardi, so talmente bene come sono i magistrati che so distinguere un militante politico di parte come Ingroia da un eroe civile come Paolo Borsellino. Anche Woodcock, che è un militante politico? Ingroia? Anche Woodcock è un militante politico? No, perché non è andato a un congresso di partito a parlare col simbolo del partito davanti dicendo che è pronto a tornare a fare. Beh, sa che l'inchiesta sulla P4 è completamente fallita, eccetera, no? Guardi, allora le posso dire una cosa. Sì. Io, per aver espresso i miei giudizi su Woodcock, ho avuto da lui 2-3 querele. Quindi capisco che farebbe spettacolo, ma non voglio altre querele. C'ha paura, Woodcock mosse nei miei confronti un'accusa infondata di aver avvisato uno, pensi un po' lei, che era intercettato. In Italia sono tutti intercettati, avviso attraverso la radio. Attenzione, c'è un sacco di gente intercettata, ecco, così abbiamo fatto un avviso a tutti. Io fui accusato da lui di aver avvisato uno che era intercettato. Il Tribunale dei Ministri smontò l'accusa nel giro di pochi mesi e scrisse un giudizio abbastanza critico verso Woodcock. Siccome poi l'ho ma come lo considera come magistrato? Lui ha fatto 2-3 querele. Ma lei l'ha vinte queste querele o no? Le ha vinte queste querele o no? No, in un caso sono stato condannato in primo grado a 1000 euro di ammenda. Vabbè, farò una ragione, che devo fare? Vabbè. Un'altra è ancora in discussione. Sì. Allora non vorrei aggiungere. Ecco, ma come magistrato, dopo il fallimento di questa inchiesta sulla P4 certificata anche dai magistrati, come lo considera? Un pazzo? No, guardi, Cruciani, le ho già detto, io ho molto criticato Woodcock che lui mi ha querelato. Io ho un giudizio, come dire, critico nei confronti su questo di queste inchieste. Non aggiungo aggettivi, perché poi che succede? Quando si fa. Allora, io per una mia affermazione critica su Woodcock, sai quanto ha chiesto il pubblico ministero nei miei confronti? Quanto? 2 anni e mezzo di condanna. Che uno dovrebbe dare una coltellata a uno. Per fortuna il Tribunale di Roma non ha accolto la richiesta del pubblico ministero e si è limitato a chiedermi 1000 euro di ammenda. Dunque lei è un po' perseguitato da Woodcock. Io conto di avere ragione in appello, l'appello. Ma pensi un po', il pubblico ministero l'ha chiesto 2 anni e mezzo. Ma lei è un po' perseguitato da Woodcock, cioè la querela continuamente, si sente un po'. No, mi ha querelato varie volte, adesso sente il fiato sul collo. Conservo un giudizio critico su quello che lui fa, come lui pensa abbia un giudizio critico. Giudizio critico, giudizio. È una parola che non vorrei mai ascoltare alla Zanzara. Ho un giudizio sento un giudizio. Ma le ho già detto che mi ha querelato un paio di volte. Conservo un giudizio. È un po' colleghi. Ma non la dica, è un po' birichino il signor Woodcock. Detta così, che forse. No, questo lo dice lei. Un po' birichino. Ha paura a capire. Senta, sentiamo che, diciamo che la sua azione giudiziaria spesso è stata, come dire, seguita da smentite. Ma quindi c'è da aver paura di magistrati come Woodcock? Ma Gaspari moderato non lo posso sentire. Ma quindi c'è da aver paura? Perché abbiamo delle cause in corso, ha capito. Ma quindi c'è da aver paura di magistrati come Woodcock? Questo lo possiamo dire? Cioè c'è da aver paura? No, questo lo dice lei. No, no, vabbè, non fa paura a nessuno. Allora sentiamo cosa ne pensa invece Gad Lerner di Gaspari. Vediamo se su Gad Lerner invece, che non so se abbia la querela facile, si scioglie un po' di più Gaspari. Mi ha insultato in televisione. Ma no, insultato ma esageriamo, insulto, però insomma sentiamo. Certamente non è che l'ha esaltato. Vabbè, è legittimo, sì, non elogiare. Bisogna elogiare per forza Gaspari. Sì, però non per un contenuto, perché sentiamo. Ce l'abbiamo? Sì, Lerner, Lerner su Gasparri, please, regia, please, please, Lerner su Gasparri. Si crea l'attesa. L'ho ascoltato 40 volte prima, Lerner su Gasparri. Si crea l'attesa. E anche Gasparri. Non voglio fare nomi, vabbè, dell'uno e dell'altro schieramento. Vogliamo dire, vabbè, no, non voglio dimenticarmene uno. Diciamo, Donadi, capogruppo dell'Italia dei Valori, è in grado di parlarti di qualsiasi argomento con un'infarinatura media, diciamo così, va bene? Certo. Posso dirne uno dell'altro schieramento? Non so, Gasparri è un altro che è difficile che se lo inviti ti dica di no. Ma insomma, Prezzemolino, beh, vabbè, no? Esatto. Gasparri, ma Prezzemolino. Non ha detto nulla di grave, di cattivo, anzi. Guardi, pensi, il mio interesse verso Gad Lerner è tale che mentre lui parlava stavo leggendo gli ultimi sms che mi sono arrivati, quindi non ho sentito quello che ha detto. Quindi a me di Gad Lerner proprio non è che mi interessa granché. Non me ne può fregare di meno. Vabbè, ma ha detto una cosa. Ha detto che lei ha una dichiarazione su tutto. No, ma ha detto una cosa che è molto divertente, cioè che lei e Donadi e altri è uno di quelli classici che dichiara su tutto, dalle balene del Mozambico fino all'affollamento delle carceri. Vabbè, questo... ci sentiamo dopo la pubblicità, non molla nemmeno su Gad Lerner. Che è successo? 800 24 00 24, tra poco. Eccoci qui, alcune frasi del giorno. Ripartiamo da Guido Crosetto, Guido Crosetto, 800 24 00 24, deputato del PDL. Mi rifiuto di andare in Calabria. Io ho dei colleghi che mi invitano in tutta Italia, normalmente vado a parlare di economia. Io mi rifiuto di andare in Calabria. Non voglio solo salvare dalla strada le persone che lavorano per me, e però sono pagate dalla Camera, non è che lavorano per lei, sono pagate da noi, signora Piretti. Dobbiamo salvarle noi, si capisce. Avete fatto una cosa ingiusta, comunque io non ho mai chiesto niente per me, continuo a non chiederlo, ma di questa gente vi dovete fare carico. Vabbè, magari verranno... Cioè, magari un corno, guardi, faremo un ricorso, quindi questo glielo posso... Ah, lei fa ricorso contro... No, io no, non lo faccio io, lo faranno loro. Perché ci dobbiamo fare carico di queste persone, signora Pivetti? Per quale motivo? Non si capisce, non si capisce. E ha sentito Gasparri che Casini, per esempio, ha rinunciato ai privilegi di ex presidente della Camera? Ho apprezzato questa decisione, ovviamente dovremo constatare, ma non ho dubbi su questo, che la scelta sia effettiva. Non ho capito perché invece Bertinotti e Violante abbiano assunto un atteggiamento diverso. Perché dicono che è una cosa demagogica. Io capisco che la legislatura dopo, no? Uno che è stato presidente possa avere una serie di impegni, di incarichi, viene coinvolto in quanto carica istituzionale appena cessata. Sì. Ma più che una legislatura, mantenere qualche ufficio, poi se continua a far politica probabilmente avrà degli altri incarichi. Però scusi un attimo Gasparri, non è un po' in ritardo questa decisione di Casini? 6 anni dopo, dal 2001 al 2006 sono passati almeno l'ha presa 6 anni dopo. E Fini? La Pivetti, Bertinotti e Violante sono accaniti. Quelle posso dire un'altra cosa? E Fini? Fini? Fini è ancora presidente, il problema si può... No, però perché non dice nulla? Rinuncerò, farai, eppure pure lui... Cioè... Ma io le dico un'altra cosa, le lancio un'altra offensiva. E qual è? Alla Camera c'è la Fondazione Camera dei Deputati, che costa un sacco di soldi e secondo me potrebbe essere tranquillamente chiusa. È la fondazione che poi si dice che è stato ex presidente, l'ultimo ex presidente, attualmente Bertinotti. Il Senato non ce l'ha la fondazione Senato, per cui io credo che si potrebbe lanciare una campagna per abolire la fondazione. Ma quanto costa la fondazione Camera? Alcune centinaia di migliaia di euro l'anno, non le so dire a memoria la cifra esatta. Comunque secondo lei non è un po', cioè Casini che prende questa decisione dopo l'ufficio di presidenza che decide di prolungare per 10 anni per quelli attualmente in carica, no? Gli altri invece chiudono con la fine di questa legislatura. Beh, un po' è un Casini un po' in ritardo, o sbaglio? Però, ripeto, almeno l'ha presa la decisione. Gli altri hanno annunciato con ostentazione che attenderanno il futuro. Bertinotti ha detto mi rimetterò la decisione delle istituzioni, quindi non ho capito che vuol dire, cioè che continuerà fino a dopo il 2013 altri 10 anni. Quindi a parità di comportamenti almeno Casini 6 anni dopo tenga conto che Casini di fatto è una sorta di capogruppo del gruppo, dunque ha le stesse leader politico, quindi in qualche modo, come dire, le sue condizioni per svolgere il mandato politico le ha comunque, credo che abbia varie opportunità per svolgere come giusto da qualche parte la sua attività. Allora Caleario intanto dice gli insulti sono andati oltre il limite, valuta ora dimissioni, dunque non sono così certo. Se Caleario si rimette fa bene. Fa bene? Sì, fa benissimo. Subentra uno del PD, tanto ormai siete insieme. Guardi, ma chiunque subentri, perché ha dimostrato ormai siete alleati. Ma chi ha detto di così scandaloso il signor Caleario? Che ha detto di così scandaloso? No, ha mostrato un atteggiamento che alimenta nei cittadini un'avversione per le istituzioni parlamentari, che non sono fatte tutte da gente come Galearo. Io non voglio essere accomunato nel giudizio a quello che ha fatto in generale nella era nell'ex Galearo. Maggioranza, cioè praticamente poi lavorava per Berlusconi, cioè era con voi. Cioè... Ma vi ripeto, il fatto che lui poi, dopo essere stato portato in Parlamento dal Partito Democratico e da Veltroni, abbia poi fatto una scelta diversa in un certo momento, al limite aggrava la posizione di Galearo, non so come dire, perché si dimostra persona che alla fine è stata anche inaffidabile. Ai miei occhi non è che questo non abilita. Poi in Parlamento, come tutti dicono, bisogna essere liberi di votare, come si ritiene Galearo in quel momento ha ritenuto di votare Crosetto? Per il centrodestra. Crosetto? Ma non credo che sia una cosa che sarà considerata da noi un motivo di orgoglio. No, il fatto che Galearo sia passato, lei non era. Non può essere certamente un motivo di orgoglio, però vi è servito a un certo punto, no? Cioè è servito per arrivare alla maggioranza a dicembre. L'avete chiamato un salvatore della patria a un certo punto. Su. Io non l'ho mai chiamato. Trovi una mia dichiarazione a favore di Galearo che lo definisce salvatore della patria, a favore di tutti questi che sono passati ad appoggiare il governo Berlusconi. Adesso non è che possiamo sputare. Ma sto dicendo che se lei prima ha citato la mia dichiarazione dell'altro giorno, la prenda tutta intera e vedrà che anche lì ho detto il fatto che abbia votato per noi francamente non è che nobilita l'uomo. Comunque in Parlamento poi tutti hanno inseguito i voti di tutti. D'Alema fece un governo nominando un ex missino, Mr. Ville, sottosegretario. Vabbè, poi si dimise dopo due secondi. Perché ci fu una rivolta nel suo partito, mica perché D'Alema ritenne grave la sua scelta. No, cinicamente l'aveva tranquillamente imbarcato nel governo, alla grandissima. Galan vuole tornare a Forza Italia e dice che il PDL è finito. Che cos'è secondo lei? Un po' frustrato, in cerca di poltrona, l'unico, uno dei pochi liberali dentro il centrodestra? Ha già risposto Cicchitto in un'intervista dicendo che il Partito Liberale durante la breve stagione in cui pese il 7% oscillava intorno al 2-3%. Le dico quello che pensa Silvio Berlusconi. Io e la Russa siamo stati a pranzo. Sì, e che pensa Silvio di Galan? E lui ha ribadito l'opportunità non solo di tenere questo grande partito unitario. E d'accordo, questo l'abbiamo letto. Di farne uno ancora più grande di fronte ai problemi che c'ha l'Europa, il mondo, l'aggressione commerciale della Cina. Altro che frammentare. Però questo l'abbiamo letto, quello che Berlusconi vuole fare, però... Quindi non è assolutamente d'accordo con quelli. Se Galan, come gli ha detto ieri la Russa, ha nostalgia di altri momenti della vita politica, se ne vada. Si accomodi. Io le sto parlando dalla sede del Popolo della Libertà, via dell'Umiltà. Ma se il PDL perdesse Galan, perderebbe qualcosa? Si può fare a meno di Galan? Sì. Beh, è un uomo di peso, credo che pesi quasi 100 kg. Dal punto di vista fisico, ho capito, lei, fisicamente, no? Di peso. Intellettualmente? Poi, politicamente pesa o non pesa o non conta nulla. Sotto il regno di Galan, nel Veneto, quando era presidente della regione, la Lega è cresciuta a dismisura e Forza Italia ha perso molti voti. Dunque non conta nulla, diciamo, politicamente. No, ha perso voti per Forza Italia. Quindi non sa fare politica. Non sa fare politica. E ha perso voti rispetto all'inizio. Non sarebbe una grande perdita. Galan ci fa perdere voti, dai. No, ma io spero che resti, perché a me più siamo meglio è. Poi uno che pesa più di 100 kg, ce ne vogliono due da 50 kg poi per sostituire. Comunque, voglio dire, in Veneto ci ha fatto perdere voti, dunque non sarebbe per noi una perdita gravissima, questo si può dire. No, ma io sono contrario alle perdite gravissime. Poi se lui non ci sta bene, come si dice, ce ne faremo una ragione. Quella è la porta. Senta, Santoro e Freccero, ha sentito, si propongono come presidente e direttore generale della RAI. Questo era un refuso. Grande ticket. È un refuso. Come un refuso? Era per la televisione pubblica cinese. La televisione pubblica cinese? Ma dai, Gasparri, come c'è ancora il Partito Comunista Cinese. Loro hanno presentato la domanda, ma non era per la RAI. Era per la televisione della Cina. Che ancora se un po' meno comunista, sempre comunista. E lì è una coppia bellissima. Santoro e Freccero, è perfetta, è perfetta per la televisione pubblica cinese. Guardi, cinese. Poi possono portarsi anche Ruotolo, che andava in vacanza con Ciancimino. E questo ci ha detto Ciancimino. E quindi vanno tutti e quattro. Ma non è andato in vacanza con Ciancimino, sono trovati lì in vacanza con Ciancimino. Ma poi chi c'entra? Scusa, questo perché me l'aveva raccontato Ruotolo. E perché non l'ha detto lei? Perché non l'ha mai utilizzato come polemica? Ma perché me l'aveva detto in una condizione privata una volta? Così, quindi non era una notizia. Comunque sono perfetti per la televisione cinese, lei dice. Sì, tutte e due, ma anche con Ruotolo e Chan Chimin. Sembra uno, non deve neanche cambiare nome, no? Questo non è male, Chan Chimin. Che conduce la rubrica storia del figlio di un mafioso. Alla televisione. Ma dai, ma sono, scherzi a parte, Gaspare, sono due grandi professionisti. Non è che li può mandare in Cina. Li manda mica in Cina, in esilio, su, dai. E là c'è 1.200.000.000 di potenziali spettatori. È un grande mercato, no? Ma sono gli unici. Che fanno? Sono sprecati per l'Italia. Ma non riconosce che sono due uomini che almeno di televisione ci capiscono, Santoro, guardi, e Francesco? Santoro da giovane era del movimento Servire il Popolo, che era un movimento maoista, no? Quindi conosce pure gli argomenti, le ideologie. No, sono due grandi professionisti sprecati per l'Italia. C'è un grande mercato in Cina. Di una platea più bassa. Vadano all'estero, lei dice. No, la Cina, in Cina. 200 milioni di potenziali. Altro che 6% quello che fanno sul servizio pubblico. Zanzara in Cina, quanta gente. No, ecco, la Zanzara lasci l'Italia. Stavo per chiamare Ciancimino in Cina. Ciancimino in Cina insieme a Santoro e. Ma chi vedrebbe bene lei alla guida della Rai? No, se io faccio i nomi li rovino. Proprio per questo li roviniamoli. No, lei, seriamente. Allora, Capon e Iseppi hanno detto, ottimi, nuovi. Ma è tutta roba vecchia, li hanno proposti. Hanno detto Capon e Iseppi. No, dica lei, due... presidente della Rai, Giulio Anselmi. No, due uomini. Giulio Anselmi. Tutti quelli così, se li dico io, non li mettono. No, ma dica due uomini. No, in questo momento, se dovesse lei rinnovare il consiglio di amministrazione, chi sceglierebbe? No, non lo posso dire, li rovino davvero. Cruciani e Parenti. Ma no, vabbè, questo è possibile. Cruciani e Parenti. Senta, Gaspari, l'ultima cosa, è tornato a essere però Gaspari vero. Oppure sono Geronimo La Russa. Ma non quello che già Geronimo La Russa alla Rai, quello sarebbe stupendo. È già impegnato. Io sarei l'uomo più contento del mondo. Geronimo La Russa alla Rai, pensa che casino. Sarebbe meraviglioso. Fatelo questo nome, tanto che cazzo mi frega. Cosa mi frega? Sarebbe capace. Sì, sarebbe capace secondo lei? Come consigliere d'amministrazione sarebbe capace. Sì, poi ci vediamo. Però Cruciani e Parenzo possono fare. No, però adesso qui non si scherza. Sarebbe capace Geronimo La Russa di fare consigliere d'amministrazione della Rai o no? Ma certamente, cioè, mica che è una cosa difficilissima. No, è come non è una cosa questo ci riuscirebbe anche Freccero. È un buon nome, è un buon nome. Ma che c'è? Dai, ma lei sta parlando un'ultima cosa. Ma sta parlando seriamente, questo è il dramma. Sì, su Geronimo La Russa sono convinto che è serio. No, io ho proposto Capon e Iseppi, che sono due scelte fresche. Ma cioè, no, però la cosa che non hanno a che fare con la politica. La cosa curiosa è che Capon ma i Capon, dai, perché si mangiano i capponi, si mangiano. Bravissimo, io non me ne racconto. No, ma lei ha detto che per fare il consigliere della Rai, il presidente della Rai è un mestiere che sanno fare tutti. Questo ha detto che può farlo chiunque. Il direttore generale. Consigliere è diverso. Il direttore generale lo può fare chiunque, secondo lei? No, il direttore generale. No, ci sono dei requisiti previsti dalla legge. Però il consigliere di amministrazione lo può fare chiunque, però, diciamo. Un conto è dirigere il TG1, un conto è fare il direttore generale, un conto è fare il consigliere. Scusi un attimo, il consigliere di amministrazione in realtà basta che viene nominato. Ci vuole competenza e capacità, ma uno, insomma, il direttore generale è un incarico più delicato. Mi fa un po' ridere che faccia i nomi di Capponne e Sessi, che sono un scusi po' un attimo, Gaspari, però mi dica la verità. Secondo lei la politica deve avere ancora un ruolo decisivo nella nomina del consigliere di amministrazione? Quello sì, quello lei ci crede fortemente. No, finché è pubblica deve avere il Parlamento, però dunque, la legge Gaspari consente di vendere le reti della Rai o di fare della Rai una public company, vendere le azioni al pubblico. Io credo che si dovrebbe applicare la legge Gaspari nelle parti non attuate, che prevedono una progressiva privatizzazione della Rai. Così a quel punto la politica non c'entra niente. È bello però, finché Gaspari decide il Parlamento, non Gaspari che parla della legge Gaspari. Un'ultima cosa, Barbato, lei come lo definisce? Senta queste definizioni, un Pierino, un Barbato dell'Italia dei Valori, un Pierino, un delinquente o uno squilibrato? Uno capitato per caso in Parlamento, insomma, che però secondo me dovrebbe fare come Galeano, insomma. Cioè dimettersi, ma lei però non mi mica più, Pierino, delinquente o squilibrato? Devo scegliere per forza, tanto su Barbato che gli frega. Uno squilibrato. Grazie, a presto. Arrivederci grazie. 20:12, pubblicità. Siamo qui, abbiamo il traffico tra pochissimo. No, c'è già stato, ero distratto, va benissimo. Bene. Pasquale da Macerata, 800240024. Poi abbiamo Antonella da Pordenone, Giulio da Vicenza, Lores da Vicenza, Marco da Padova. Molto Veneto e non solo, naturalmente, però Macerata. Ripartiamo dalle Marche. Pasquale. Sì. Vada. Buonasera. Signor Cruciani o dottor Cruciani, come la chiamano? Guardi, lei può dire quello che vuole, mi può mandare basta anche a quel paese. Basta non è, che dica è... qualcosa. No, io a quel paese non ce lo mando perché sono molto più educato di lei. Nessuno vuole paragonare, si può paragonare alla sua educazione, al suo bon ton. è lei che manda all'altro paese tanti. Può succedere, può succedere, sì, poi, può succedere. Capita. Sovente. Sa com'è? So com'è che... Lei c'ha dei suoi preferiti. Sì. Chiama oppure si fa chiamare. Noi purtroppo, sì, piccole persone, microbi, perché si butta così giù? Non possiamo intervenire perché io 10 volte ho provato, non sono mai... Ma lei è qui, dunque dica la sua. Lei è qui tra noi. No, io non dico la mia, io dico solo che questo programma, sì, dovrebbe essere soppresso. Soppresso, per me. Stupendo. Soppresso proprio. Perché questo è meraviglioso. Lei tutto ciò è meraviglioso. Un maleducato, sì, bene, ma non è la prima volta che me lo dicono, per cui va benissimo. Sono abituato, caro Pasquale. Io senza offesa per nessuno, però, senza offesa per nessuno, perché certo. Vorrebbe vederci morti? Sera, no? Io questa radio per me è la vita, sì. 24 ore su 24. Bene. Quando arriva dalla zanzara mi nervosisco. Io lo faccio apposta, caro. Perché lei è talmente pungente, ma né pungente verso i suoi amici, è pungente verso una persona che parla, che vuole dire, che vuole esporre il problema. Ma scusi, adesso lei sta parlando in piena libertà, mi sta dicendo che sono un maleducato, che questo programma va soppresso. Di più. Ma appunto, lei sta dicendo tutto questo in libertà, ma che cosa vuole di più dalla vita? Lei sta dicendo questo programma fa schifo, andrebbe soppresso. Lei è... questo programma fa schifo, andrebbe soppresso. Oh, benissimo. Non ascolto più Radio 24. Oh, benissimo. Ma non è vero, ma si è telefonato pure. Ma io, per carità, lei non lo so. Sì. Chi sia o che cosa rappresenta, sì, ma lei è talmente aggressivo, sì, talmente ineducato, sì, verso chi parla così come me. Sì, ma veramente io sono tranquillissimo, la sto lasciando parlare tranquillissimamente, caro Pasquale. Tutte le sere. Tanto non ascolta. Ma allora l'ascolta. Certo, allora, perché io non cambio programma. Sono costretto ad ascoltarla. Vorrei cambiare programma domani sera. Anzi, stasera mi sta dando la libertà di dire quello che penso. Appunto. No? Sì, ma non c'è qualcuno con la pistola alla tempia che le dice... Là, perché dice, vabbè, è chiuso. È la terza telefonata questa. Sì. Stanno per finire le chiamate in convenzione con il Ministero della Salute. I malati sono pregati di tornare in corsia. Grazie. Pasquale? Hai visto? Che è successo? Stanno per finire le chiamate in convenzione con il Ministero della Salute. Gli infermieri verranno presto a prendere i malati e li riporteranno in corsia. Grazie. La vostra tecnica è questa, benissimo. Grazie. Io mi ha dato la parola. Caro Pasquale, l'abbraccio fortissimo. Fortissimo, l'abbracciamo. Guardi, io non ce l'ho con lei, ma ce l'ho con il suo modo di fare. Benissimo. Per carità, perché ognuno di noi, sì, se può esprimere quello che può, per carità. Ma lei ha potuto esprimere tutto quello che voleva. Non è possibile. Pasquale, lei ha detto questo programma fa schifo, va chiuso, lei è un maleducato. Più di questo che vuole? No, per me questo è il massimo. È il massimo. Il massimo di che? Ma di cosa? Ma appunto, di che? Il massimo di cosa? Il massimo di iniezione. Mandate la cosa. Mandiamo un'ambulanza. No, voglio sentire il candidato a Palermo. Non ho ancora capito chi è il candidato a Palermo. Chi è il mio candidato? È Orlando. Quest'altro che c'hai a fianco è tremendo. Chi? Ok. Comunque, una cosa è certa, il tuo programma non mi piace. Pasquale. Non mi piace. No. Non mi piace, no, perché è arrogante. È arrogante? È... Poi? C'è un modo. Di trattare la gente come me, sì, che lavora la mattina e la sera, sì, quando ce l'hai il lavoro. Sì. Perché l'altra sera un amico mio stava dicendo... Ma l'amico suo chi è? Però? Ma chi è l'amico suo? Non si capisce più niente, amico mio. Non riesco più a seguire nulla, l'amico mio, l'altra sera. È Gruciani, ma non si capisce. Vedi? Ma vedi cosa? Vedi? Questo è un programma di satira. Ma che satira? Non si capisce, è mio cugino, è ieri, è Gruciani, ha telefonato. Io voglio guardare per l'altro programma, Radio 1. Non si capisce. Mamma mia. Lo dico io, non si capisce. Complimenti. Ma complimenti, però... cosa? Non capisco nulla. e Crociani è un programma macchioso, e perché quello è il suo amico. Ma chi è sta gente? Non si capisce. Lo capisce che non si capisce. Complimenti. Buonanotte, grazie. Buonanotte. Buonanotte. Sono le 8:20, Pasquale. Ci ti rendi conto? Pasquale. Sono le 8:20, Giulio da Vicenza. Giulio da Vicenza. Ma chi era l'altro della settimana scorsa? Non me lo ricordo. Com'è che si chiamava l'altro numero uno di Foggia? Richiamiamolo. Sì. Quello di Foggia è il numero uno. Sì, Giulio da Vicenza. Giulio, vada. Pronto? Sì, vada. Buonasera intanto. Buonasera a lei, grazie. Totalmente contrario a quello che ha detto il signore di prima. Ma non è che c'è da essere contro. Adesso commentare quello che un signore è difficile. Chiaro stato. No, vada. Chiedo scusa, ma sento molto poco il telefono. Sì, prego. Vada. Ecco, grazie. Io ho chiamato per un altro argomento. Sì. Io sono un operaio, quindi le tasse le ho sempre pagate. Bravo. Però ho invidia, e dichiaro e dico che sì, quelli che non le pagano fanno molto bene a non pagarle. Perché mi chiedo, bisogna pagare le tasse, sarebbe anche giusto pagare le tasse. Sì. Però devo pagare le tasse per chi? Per pagare la pensione ai baby pensionati? 600.000 persone che hanno lavorato 11, massimo 12 anni nella loro vita, per pagare i servizi, e prendono 1.100 euro al mese e continuano a prendere 1.100 euro al mese. Loro non sono stati toccati. Dobbiamo pagare le tasse per pagare i benefit al signor Bertinotti e affini, che oltre a pensioni da 15.000 euro. Sì, ma la lista può essere lunga, però cioè noi possiamo metterci qui. Però Giulio, mi scusi, lei ha ragione quando dice le tasse vanno pagate e basta. Le tasse vanno pagate, dopodiché bisogna fare una battaglia fino all'ultimo sangue, lancia in resta, per far dimagrire quella sorta di vampiro che è lo Stato. Da una parte, e dall'altra la lotta alla corruzione. Ma quello però è normale. Ma come, non è normale in Italia, purtroppo? Sì, d'accordo. Lotta però alla corruzione, guardia di finanza ovunque, scatenare i cani, scatenare le macchine verdi della finanza con le luci sopra. E però blitz, anche dimagrimento totale dello Stato e dunque con provvedimenti drastici. Qui nessuno fa niente, insomma, nessuno vuole mollare nulla. Diciamola tutta. L'onorevole Pivetti, l'ex presidente della Camera Pivetti, non si arrende e vuole che noi paghiamo i dipendenti della sua Onlus, mentre tutta, noi lo diciamo molto vero, esplicitamente, ma ce ne freghiamo, non perché non abbiamo rispetto di queste persone, perché queste però persone vuole fare la fondazione, signora Pivetti, se la faccia pagare dal privato. Però l'altro grande scandalo è che i dipendenti dichiarano di più dei loro padroni. Questo è l'altro grande scandalo italiano. Allora Giulio, che in America non sarebbe possibile. Posso finire? Sì. Ecco, sì, grazie. La mia chiaramente è una provocazione. È chiaro che è una provocazione, perché io faccio parte di quelli che le tasse le pagano, sono un operaio, le pago tutte quante fino all'ultima. È chiaro che è una provocazione. Però con che coraggio io vado a dire, io qua davanti a casa mia ho una piccola pizzeria, sono marito e moglie, lavorano 10 ore al giorno, compreso la domenica, perché devono pulire, eccetera, eccetera, eccetera. Io a questa persona vado a mangiare un pezzettino di pizza, se non mi dà lo scontrino devi dirgli: ah, sei un ladro, io adesso ti denuncio, perché tu le tasse devi pagarle, e ripeto, devo pagarle per chi? Per i pensionati, i baby pensionati, per Bertinotti, per Fini. Perché no, ma io la sua rabbia con un malato di lebbra, 65 persone che ci lavorano, è stata Striscia Notizia a farlo chiudere dopo ben due interventi. No, ma Giulio, lei ha perfettamente ragione, io non le sto dicendo che ha torto, lei ha perfettamente ragione, questo non è un buon motivo per fare una campagna contro il pagamento delle tasse. Cioè, lei dovrebbe fare una campagna per il dimagrimento dello Stato, perché la bestia, l'idrovora, cessi di mangiarci la vita, questo sì. Antonella da Pordenone, grazie Giulio. Antonella, dica. Buonasera, salve. Allora, intanto pensavo di aver bisogno tra un po' dell'ambulanza anch'io, forse ad ascoltare il precedente interlocutore. Io volevo solo fare un piccolo appunto proprio sul discorso del lavoro. Io ho 55 anni e ovviamente adesso sono in una condizione molto particolare, sono nel paese di vorrei ma non posso, perché non ho abbastanza contributi per la pensione, non ho altre possibilità di lavoro. Vabbè, nel frattempo però le faccio questa domanda. Sì. Noi siamo costretti a fare questi corsi di aggiornamento che ovviamente ci tengono impegnati praticamente. Antonella, andiamo al sodo però, su. A cosa servono questi corsi? Ma non lo so. Alla fine di tutto, voglio dire, perché spendono questi soldi per questi però costi? Antonella, adesso che ci diano più soldi a noi, sì, adesso però abbia pazienza, io alle 20 e 26 non posso parlare dei corsi di aggiornamento, dei suoi corsi di aggiornamento, non ce la faccio. Allora Antonella, ma perché non me ne frega niente, mi dica una cosa sugli argomenti, su un argomento che vuole, che non riguarda i suoi corsi di aggiornamento, e così fossero solo miei, riguardano metà Italia, metà Italia, i corsi, perché secondo me attraverso questi corsi di aggiornamento si mangiano in tanti. Va bene, può darsi, ecco, sicuramente così. Questo bene, è il discorso. Poi... ecco, e quindi è un ulteriore spreco nello spreco. Va bene, i corsi di aggiornamento. Anziché fare va cose benissimo. Giuste, fanno cose inutili. Va bene. E poi soprattutto sono stanca di sentire sta fiaba dell'articolo 18, ma che lo lasci no dov'è, ma che palle, scusa il termine. Va bene Antonella, grazie. Marco da Padova, buonasera. Buonasera dottor Cruciani. Allora, la sua dunque, ho 40 anni, chiamo da Padova, sono un imprenditore, sì, e penso di parlare a nome di parecchi imprenditori. Sono un imprenditore affamato di riforme, nel senso che credo che con il governo Monti la politica abbia fallito miseramente, da destra a sinistra. Vabbè, questo mi sembra che è un dato certo, certificato ormai da mesi, non è che viene lei a dircelo, certo, qua alle 20:27 scopriamo. Certo. Ho visto ieri sera un programma sulla Thatcher, sull'epoca storica che ha vissuto la Thatcher, le riforme che ha fatto. L'ho visto su Rai Storia. Rai Storia. Beh, esatto. Sono programmi che dovrebbero fare sulla TV nazionale. Allora, in buona sostanza, il discorso è questo. 11 anni di riforme, anche pesanti, che ha fatto. Hanno creato 3 milioni di disoccupati. Scusi, abbia pazienza, Marco. Adesso, veramente, non dobbiamo fare la storia della Thatcher qui alle 20:28. No, certo. Ecco, certo. È importante questa cosa sottolinearla. Il discorso è questo: l'idrovora che lei ha nominato prima, sì, l'idrovora statale, si ferma con delle riforme molto profonde, strutturali. Va bene, benissimo. Poi... per fare riforme profonde e strutturali serve anche di cambiare la Costituzione, perché bisogna avere gli strumenti. Vabbè, dobbiamo per cambiare la Costituzione, fare. Dunque. Benissimo, quindi per cambiare la Costituzione lei sa che c'è un iter procedurale abbastanza, Marco, complesso. Questo è il pippone delle 20:28. C'è stata qua la scimmia sulla pazienza. Riforma costituzionale, la doppia lettura, la maggioranza, ma che roba è? Farà queste cose, ma niente cambierà. Ma come, non è vero che niente cambia? Intanto il governo tecnico, il governo tecnico ha dimostrato che rebus sixtantibus, stando così le cose, con queste regole si possono fare delle cose, con queste regole. Allora ripetiamo, Calearo, tranquilli, a giorni mi dimetto stamattina, poi ci ripensa, valuterò se farlo. 800 24 00 24. Almeno telefonargli, però proviamo a telefonargli. No, Borsa non è voluto venire. Borsa, io dico solo che questo programma dovrebbe essere soppresso. Zanzara Party. Francesco da Siena, buonasera. Buonasera a Cruciani, buonasera a David. Volevo farvi complimenti per la trasmissione. Bene. La trovo eccellente. Volevo fare un appunto al signor Gasparri. Mi pare molto, mi sembra un comico quando dice che il figlio di La Russa dovrebbe entrare in Rai. L'ha detto, era una provocazione. È una provocazione molto mediocre, però, perché il signorino La Russa, Geronimo, ha fatto delle consulenze, fra virgolette. Un attimo. Provando sui razzi. Sì. Hello? Onorevole Razzi? Sì. Do you speak English? Sorry? Pardon? Pardon? Do you speak English? Do you speak English, Honorable Razzi? Yeah. Okay, hello. It's a personal assistance of the Minister of Culture of Uganda. Ah. The minister... the minister... Yes. Hello? Hello. Yes, pardon? Moment, please. Yes, hello? Hello? Hello? It's Honorable Razzi. Yes, speaking. No, it's not Honorable Razzi, I think so. It's... No, yes, I'm... We are looking... Because we are looking for Honorable Razzi. It's a personal assistant of the Minister of Culture of Uganda. Ah, I see. Yeah, he's close to me. Okay, is it possible to speak with Mr. Razzi, Honorevole Razzi, or I don't know, it's Razzi or Razzi or I don't remember. We yes, have to, yes. It's Razzi? Yes. Yes. Okay, it's where is Razzi? Is possible speaking with Razzi, please? Hello? Oh, Razzi, okay, really. I am personal assistant of Mr. Or the Minister. Today been meet President Uganda. Yes. Okay? The Minister. Tomorrow. No, not tomorrow. The Minister of Culture of Uganda would like meet you yes. tomorrow morning at embassy. Embassy. Okay, tomorrow. Okay. It's nice, Uganda. You like Uganda? It's like Uganda meet President. Yes. Today meet President Uganda. It's a journalist Uganda Today. Okay. I am a journalist of Uganda Today. We want to know something about Italy. Mr. Mario Monti. In Uganda, we want to know... Okay. But what is... Okay. What do you think about Mr. Monti? Honorable Razzi. It's in a newspaper. It's called Uganda Today. Oh. Silence. This is your opinion? Silence? Okay. Tomorrow, eh? Brother? Pardon? Tomorrow. Okay? Tomorrow? What is tomorrow in Italy? I don't understand. I don't understand, Mr. Razzi. Honorable Razzi. Oh, silence. Hello, Razzi? Hello? Ooh. 20:36, che è successo, Parenzo? Con chi hai parlato? Come? No, ho sentito la voce dell'onorevole Razzi, che era in missione in Uganda. Sì? Voleva essere intervistato da un giornalista di Uganda Today, questo noto newspaper, questo noto giornale ugandese. Ma dice. Che ci fa il signor Razzi in Uganda? Domani incontra il presidente dell'Uganda. Ma cosa pazzesca. Sembra il titolo di un topolino sulla luna, Razzi in Uganda. Roberto da Bergamo, buonasera. Chi è Roberto Toppetta? Pronto? Sì. Buonasera, ringrazio per la telefonata. Volevo riallacciarmi precedenti telefonate sì. di questi Poi c'era Francesco da Siena. No, scusi Roberto, c'era Francesco da Siena prima, mi sembra. Francesco, dica. Posso finire? Sì, vada. Allora, su Gasparri, vabbè che era una provocazione di Geronimo, ma Geronimo ha fatto il consulente per la Fonsai? Sì. Ok? Il figlio di La Russa? Sì. Ha preso, se non sbaglio... 600.000 euro, lui è Vincenzo? Ma sì. Non è un problema, però non sono soldi pubblici, si dovranno arrabbiare gli azionisti semmai, no? David, ci vuole coerenza. Ma coerenza di chi? È il figlio di La Russa, che deve fare? Deve vivere in povertà, è nato fortunato, è amico di Ligresti che è un privato lo ha preso. Voglio dire, non fatemi difendere il figlio di La Russa perché non me ne frega nulla, però non mi pare che ci sia uno scandalo qui. No, io cioè, vorrei lanciare questa provocazione, cioè criticate tanto il Trota, ma... Cioè, ma il Trota è nelle istituzioni pubbliche. Non c'è il minimo confronto. No, allora, Geronimo andava criticato, forse non lui, ma qualcun altro che l'ho nominato, per esempio, nel consiglio di amministrazione dell'ACI, se non sbaglio, no? Esatto. La Brambilla. Bravo, quello è un altro discorso, forse. Perché quella era una nomina politica, esatto. È un altro discorso. Qui è un privato, una società. In questo caso è un privato, una società, la Fonsai, che dà dei soldi per la consulenza a uno che fa l'avvocato, fa il legale. Cioè, Ligresti... Ma la Fonsai è un buco nero. Ma sanno fatti della degli Fonsai, azionisti. Ma che ce ne frega a noi? Di chi ha le azioni? Chi ha le azioni si arrabbierà, dirà Ligresti hai gestito male, hai dato troppi soldi a quel signore lì, mi spieghi perché? Ma è un problema degli azionisti, dei soci. Ha un debito di 1,6 miliardi con Mediobanca. Assolutamente. D'accordo, ma non è un problema politico. E poi sul fatto di Gasparri che sta facendo una lobby schifosa con le farmacie. Perché schifosa? È una lobby. Io non sono d'accordo, abbiamo accennato l'altra volta quando è stato nostro ospite a Roma. Io sono contrario a queste cose qui, cioè sono contrario alla lobby dei farmacisti, nel senso che penso che le farmacie e la vendita dei farmaci va liberalizzata il più possibile. Dopodiché trovo legittimo uno faccia lobby per i farmacisti. Cioè, qual è il problema? Non ho capito. No, io non sono. Lei non è d'accordo, no. Nessuno può fare lobby per i farmacisti, allora eliminiamo le lobby. No, ma la sua giustificazione, ti ricordi? qual era la sua secondo giustificazione? Secondo lui non si devono vendere troppi farmaci. Vabbè, io invece, giro, secondo me, ma bisogna secondo vendere... lui i farmaci li vendono cioè, i macellai. Ma i gommini, Francesco, i meccanici. Abbia pazienza, ma io sono d'accordo con lei. Detto questo, sarà legittimo fare lobby per i farmacisti? Sì o no? Sarà legittimo, no? Cioè, no, non no. È che... no, non è legittimo, sì, è una però... cosa schifosa. No, non è una cosa schifosa. Si intravede la caratura morale di Gaspari. Ma perché caratura morale? Che c'entra la caratura morale? Cioè, la caratura morale non c'entra nulla. Fa politica, lui fa politica in questo modo. A me non piace moltissimo, però voglio dire, cioè, ho capito, a me non piace nel senso che non è che mi fa schifo. Dico semplicemente che fa lobby per i aperta, trasparente per i farmacisti, per i tassisti, per un sacco di categorie. Se però Cruciani ha detto una cosa molto concordo con lei, che non gli piace molto. Ma no, non mi piace nel senso che per me, cioè non è che non mi piacciono le lobby, le lobby mi piacciono moltissimo, io la penso in maniera diversa, cioè penso che bisogna vendere il più ampio numero possibile di farmaci fuori dalla farmacia, sono per una liberalizzazione totale del servizio anche delle farmacie, per cui figuriamoci se posso essere d'accordo con la difesa di una corporazione, assolutamente no. Detto questo, ognuno è libero di tenersi il suo orticello e di difendere il proprio orticello. Io lo combatto questo orticello, è evidente, no? Lo combatto con le idee, con le opinioni, eccetera. Mi dispiace tanto che gli ascoltatori non capiscano la finalità del vostro programma, per davvero. Vabbè, qualcuno lo capisce, qualcuno no, succede dappertutto. La ringrazio, Francesco. È con noi l'onorevole Guglielmo Vaccaro del Partito Democratico. Buonasera. Finalmente. Buonasera, grande Vaccaro. Dove si trova Vaccaro? A Roma? Sono in macchina tra Salerno e Caserta per recuperare l'ultimo Eurostar che mi riporta a Roma. Ce la fa o no? Ma sì. Alla fine, con un po' di antico, alla fine ce la fa. Vivremo il dramma Vaccaro che rincorre il treno. Ottimo. Allora, Partito Democratico, Vaccaro è promotore di un sito che... diciamo però che Vaccaro è uno dei deputati più... Che cosa? Molto serio, lettiano. Ma lo dici tu? Che no, vuol dire? Ho detto serio. Ma chi ha detto che è serio? Lettiano. Ma che per inquadrare, perché ha fatto un'iniziativa che può sembrare esplosiva, di cui lei parlerà tra poco, ma in verità è una persona, è un moderato, è un uomo di centro, cioè non è un marxista leninista, un trotskista, cioè non è il Tito Castrista, non è castrista, è un uomo, come dice Calearo, molto, no? Molto serio, laureato all'università di Salerno con la lode, è un moderato, è un cattolico moderato di centro. Ma questo non c'entra. Una domanda, Calearo è venuto da voi? Si è dimesso? No, purtroppo non è venuto perché alla fine, 20 minuti prima della trasmissione, mi ha mandato una bellissima mail dicendo che lui non parla più in questi giorni, eccetera eccetera. Non solo, ha detto che dopo gli attacchi sta riflettendo se dimettersi o no, capito? Per cui ci ha un po' ripensato rispetto a Calearo. Calearo, glielo dica lei, onorevole. Ma lei il Vaccaro del Partito Democratico, sì. Il Calearo del Partito Democratico lo ha conosciuto? No, il Calearo non ha mai si frequentato assiduamente i luoghi per i quali si era proposto candidato e poi è stato eletto. Cioè non l'ha mai visto praticamente, non si è mai visto alla Camera. Poco, l'abbiamo notato molto nel dicembre del 2010, quando ha deciso di fare un passo in aiuto del presidente Berlusconi. Lì veramente l'abbiamo poco apprezzato. Cioè si è fatto notare quando è passato con Berlusconi, questo lei dice, si è fatto notare solo lì. Sarà ricordato per due o tre cose che non è che gli facciano molto onore. Io spero che lui scriva due lettere, una di dimissione e l'altra di scusa agli italiani. Addirittura. Però scusi, Vaccaro, lei è promotore di un sito che si chiama www.boicottacalearo.it. Per questo dico, una persona moderata come lei. In cui invita a boicottare i prodotti del gruppo Calearo. È una iniziativa di name and shame che parli un po' come parliamo noi, sì. Usi un linguaggio da zanzara. Il nome è il biasimo, cioè una pratica americana diffusa negli ultimi anni che consente, grazie alla rete, di censurare le aziende che non rispettino determinati principi etici o in particolare le azioni positive a favore dell'integrazione di genere. Ma che c'entrano le aziende con l'uomo? Cioè un conto è la stupidaggine, non possiamo più dire parolacce qui ormai, del signor Calearo, un conto sono le sue aziende che magari danno anche lavoro per qualche giorno, non possiamo più dire parolacce però lui è il responsabile deve ritornare a fare l'imprenditore a tempo pieno, come ha detto di voler fare. Se però decide di approfittare di una condizione di privilegio, perché di questo si tratta, quando non si va a lavorare si porta a casa un lauto compenso, in qualche modo bisogna intervenire. Ci ho pensato molto, mi era venuto in mente inizialmente un Occupy Casa Calearo Road, però poi è prevalso, cosa che non escludo se non arriva, diciamo, la lettera più volte annunciata. Ah, cioè sei pronto questo è bello, cioè è pronto a lanciare una campagna Occupi Calearo? No, Calearo, diciamo, sia da occupare è un po' triste. La casa di Calearo? La nuova però casa di Calearo. Andare lì a manifestare, perché vorrei anche capire che casa ha acquistato per avere in qualche modo, diciamo così, giustificato un mutuo da 12.000 euro al mese. Beh, anche noi eravamo molto curiosi quando gliel'abbiamo chiesto. Io gliel'ho chiesto più volte. Aiutiamoci e chiediamo ai nostri ascoltatori di farci sapere dove si trova questa nuova reggia di Caserta. Io sono a Caserta in questo momento. Andate tutti a scoprire qual è questa reggia che ha acquistato Calearo con un mutuo da 12.000 euro, giusto? Sì, magari poi, insomma, diciamo, liberiamola da questo imbarazzo, aiutiamola a dimettersi, anche perché i 12.000 euro che pensa di poter lucrare a danno degli italiani non venendo a fare il proprio dovere, ce li rimetterà facilmente se inizia questa campagna di boicottaggio che sta già riscuotendo discreto successo. Però scusi, facesse bene i suoi conti il Calearo. Ah, lei dice o ti dimetti oppure questa campagna ti ridurrà sull'astrico. Ma sul massimo no, a conti fatti secondo me ci rimette, se fa, come dire, un po' di addizioni, 12.000 euro per un anno sono 144.000 euro, secondo me se li rimette forse anche con gli interessi. Ma non è eccessivo, onorevole Vaccaro? Scusi, però Vaccaro, innanzitutto uno con i soldi dello stipendio da parlamentare per restare al mutuo ci fa quello che vuole, uno li può spendere per pagare un mutuo andando a donne. A cena. Come non no? È così, perché i 12.000 euro sono la somma di tre voci, quali è da utilizzare per i rimborsi ai collaboratori. E lui non li paga magari, e lui non ce l'ha, non magari ha collaboratori, forse. Non avrà collaboratori. È legittimo. Sì, sul mio, dovrebbe, diciamo, restituirli in qualche modo alla collettività, ma diciamo anche che ha esagerato in una maniera roboante e farneticante. Si assumesse le sue responsabilità, si dimettesse e evitasse a me e a tutti quelli che vogliono dare una mano per questa campagna di boicottaggio di andare avanti, così che io possa fare, come voi avete suggerito in una bella nota pubblicata su un quotidiano italiano, un boicotta Gaglione in luogo di un boicotta Calearo. No, noi abbiamo detto, noi abbiamo scritto semplicemente questo: da parte di alcuni esponenti, non so lei, e di molti esponenti leader del centro-sinistra che si sono scagliati, in particolare Veltroni, contro Calearo nei giorni scorsi, nulla, non si è sentita una veemenza altrettanto vigorosa per Gaglione, per esempio. C'è da dire che Gaglione 90% di assenze. Dire che Calearo è molto più esposto dal punto di vista mediatico di Gaglione, che sta lì in Puglia, non gliene frega niente a nessuno, invece Calearo ha poi votato addirittura la fiducia al governo Berlusconi, dunque si può capire, però insomma differenza sostanziale è che Calearo è stato già intervistato alla Zanzara, ma quando voi deciderete di chiamare Gaglione arriverà anche su di lui. È stato era in un collegamento strepitoso insieme a Roberto D'Agostino, che lo ha insultato in maniera pazzesca, è già avvenuto una serata di qualche mese fa, contestandogli le sue assenze. Abbiamo il traffico. A me è piaciuta la vostra idea, e quindi partiamo presto con un boicotta Gaglione e chiederemo a tutti quelli che si affidano a lui per le cure mediche, diciamo così, di pensarci qualche volta in più, in considerazione questa diserzione dall'impegno civile a fronte di un lauto compenso. E dunque clienti di Gaglione, finché non si dimette dalla Camera dei Deputati, disertate il suo studio, disertate. Beh, questo però, ecco, se uno fa la campagna boicotta Calearo è giusto che la faccia anche boicotta. No, però quello che non capisco sono i marchi, cioè cosa c'è dall'imprenditore, come i marchi israeliani, ti ricordi? Come i marchi boicott Jaffa, cioè perché devi boicottare i traffico, torniamo subito. E questo è un fatto, non l'ha governato nessuno e siamo nella situazione in cui siamo, quindi è evidente che bisognerà creare le condizioni per nuove coalizioni di governo, non di partiti, di governo. Che c'è da che perché c'è? Questo interessa la gente, chi governa, non quali sono i partiti, ma chi è capace. Vabbè, di governare. Vabbè, Cacciari a Telelombardia, che abbiamo pizzicato al volo ad Iceberg. Siamo in collegamento con la sua macchina, Guglielmo Vaccaro, Partito Democratico, promotore del sito www.boicottacalearo.it. Mi dica una cosa, Vaccaro, lei è contento se le aziende di Calearo perdono soldi? Questo è il punto. Io sono contento se Calearo lascia il seggio in Parlamento a chi meglio di lui può servire il paese. Ma se uno fa il sito boicotta Calearo, ci ha ripensato se stanotte magari ci ripensa, ma lui darebbe lo stipendio a uno dei suoi lavoratori, operai, ingegneri, architetti, dirigenti, dopo un mese di assenza ingiustificata? Ma come fa a pensare Calearo di portare a casa 12.000 euro al mese per pagarsi, si dice, questo mega mutuo, senza avere un minimo di crisi di coscienza? No, però appunto, ma che c'è? Questo voglio capire, cioè le aziende sono una cosa. Però mi dica la verità, l'uomo politico da condannare è un'altra. Se non si dovesse mettere, voglio fargli perdere dei quattrini. Questo è il punto. Perché boicottare assolutamente sì. Ah. Calearo ha una responsabilità gravissima. È come se avesse bruciato la bandiera italiana, per quanto mi riguarda. Ho accusato il Presidente della Repubblica. Chi si permette di dire che in Parlamento si perde tempo, si pigia un bottone, ci si deprime, anziché pensare che quello è il posto dove si può servire, come io ho sempre sperato e pensato, il Paese al massimo livello, cioè, va indotto ad essere, diciamo così, in qualche maniera... va punito, accompagnato alla porta. E se non lo fa, lei dice, se non lo fa, va punito economicamente, va punito in questo modo. Però ci perdono anche i suoi dipendenti in questo modo, scusi. Ma non è così, perché vedrete che tra pochi giorni, poche ore, spero, Calearo si dimetterà. Ma la ci ha già ripensato, in realtà è molto dubbioso perché subisce attacchi, anche ha citato anche i suoi attacchi, gli attacchi chi ha promosso il sito boicottacalearo.it, cioè lui si è sentito... Io sono pronto a un confronto con Calearo da voi in qualsiasi momento. Beh, questo è interessante. Accettasse la sfida, vediamoci da voi a Milano nelle prossime ore. Ci sono le vacanze di Pasqua, a meno che Calearo non debba seguire con l'architetto l'arredamento di questa reggia che sta pagando grazie allo stipendio che non si merita. Veniamo su, stiamo un'ora e poi chiediamo alle nostre coscienze di decidere. O Calearo convince me, io lascio il Parlamento, perché è vero quello che dice lui, che non si fa niente, che perdiamo eccetera, ma non mi pago il mutuo restandoci, oppure se è lui che se ne va e la chiudiamo, chiudiamo anche il sito e passiamo ad altro. Cioè lei, secondo lei dunque ha sputtanato la classe politica e dunque ha sputtanato anche me, cioè lei. La risposta deve venire dalla classe politica, perché continuare a fare di tutta l'erba un fascio è pericoloso per il paese. Ho pensato di fare questa iniziativa e di presentarla in conferenza stampa a Montecitorio giovedì prossimo. Addirittura. Perché gli italiani sappiano che c'è una parte della loro deputazione che ha intenzione di censurare, stigmatizzare e in qualche modo aggredire questa irresponsabilità. Vabbè, però è un po' come una volta la sinistra diceva boicotti il Biscione, ad esempio. Cioè le aziende sono sganciate dalla persona, può essere criticata. Il deputato può essere criticato perché ha detto una fesseria grossissima. Ma le sue aziende, il suo lavoro, il management di quell'azienda. Addirittura evitiamo di acquistare i suoi prodotti o quelli che vendi in esclusiva in Italia. Io sono convinto che un sondaggio fatto nelle prossime ore tra tutti gli operai di Calearo ci porterà un 98% di consensi rispetto a questa iniziativa. Calearo deve occuparsi delle sue aziende, noi dobbiamo fare in modo che non si preoccupi delle nostre critiche, lo potrà fare se si dimette presto. Cioè, allora, anche i dipendenti di Calearo prendano i forconi in mano, gli operai, i dipendenti di Calearo. Bisogno, forconi metaforici. Grazie a Dio c'è Twitter, c'è la zanzara e tutto questo. Cioè si ribellino, dice lei, Vaccaro, si ribellino gli operai di Calearo davanti a un imprenditore così. Che si ribellino. Però, come dire, sono convinto che guardandolo entrare e pensando che lui porta a casa 12.000 euro al mese senza lavorare e loro arrivano magari a 1.300. Che dovrebbero fare? Con 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana senza il diritto. Che dovrebbero fare gli operai? Voglio dire, queste sono cose che gridano vendetta al cielo. Che dovrebbero fare gli operai? ma gli operai non devono fare niente, ci stiamo pensando noi, io, la Zanzara, Twitter e molti, cioè, molti italiani che hanno voglia di... Cioè, sono furibondi secondo lei? Sono furibondi gli operai di Galeano per quelle frasi? Ma sì, qualcuno mi ha scritto, quindi non dico a caso, diciamo così... quello che sto affermando. C'è qualcuno che ne ha scritto ed è veramente indignato, ma ci sono tantissimi italiani che aspettano questo momento di palingenesi. Calearo, dimettiti, è già troppo tardi. Grande Vaccaro. Grazie Vaccaro, a presto. Bastiano? Chi è Bastiano? Bastiano? Amici carissimi, buonasera. Dai, 10 secondi, no, su, 10 secondi. Bastiano, 10 secondi. Vai. Io vi voglio tanto bene, perché state parlando di questi signori evasori parlamentari. Ma che dice, Bastiano. Ma non vuole dire niente a Parenzo. Bastiano. A Parenzo gli voglio dire che è un simpaticone, però meno di Cruciani. A domani 18:30, ciao. Tu non sei nessuno e sei anche un maleducato. Io invece sono Aldo Busi. Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo. La Zanzara è il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Io dico solo che questo programma dovrebbe essere soppresso.